Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Questa è Radio 24, vero? E certo. Parenzo, ma da dove viene questo? Non sei di Padova, tu sei un ebreo! Un ebreo! Parla di zingari, i zingari devono tornare a casa loro, non a casa nostra! Rubano, stuprano, droga e rock and roll! Io non so se sia vero, caro Parenzo, però, fosse vero. Allora, leggo oggi su un quotidiano, attenzione, il clandestino che si dice gay viene salvato dai magistrati. Cioè, gli immigrati arrivano in Italia, clandestini, fanno richiesta di asilo politico. Sì. Viene respinta, poi a un certo punto dicono però sono gay, sono omosessuale, e la richiesta viene accolta. Avanti, trovo una giustificazione anche a questo, ti prego, trovo una giustificazione. No, ma non c'è giustificazione, se è vero usano una furbizia interessante. Ma magari da sei portato a dire, magari dici che in alcuni paesi essere gay è una discriminazione. Beh, non è che se lo dicessi io, cioè, sarebbe banale. Scappa qualcuno da un paese perché è un dato di fatto che nei paesi dai quali questi provengono l'omosessualità viene punita con la lapidazione o altri tipi di interventi. Sul fatto che questo qui magari abbia usato un escamotage, anche questo magari non c'è dubbio, ma non vi è dubbio che in quei paesi l'omosessualità è punita. Scusami, David, ma è chiaro che facciamo una cosa: uno si dichiara vegano, andrebbe si dichiara vegano, ma vegani che c'entra, cioè si dichiara vegano, sono discriminato in quanto vegano. No, in quei paesi lì dei vegani se ne fregano, giustamente hanno altri problemi. Quindi la cosa, mi ricordo quando uno diceva gay, sono gay per evitare il servizio militare, ti ricordi? Cioè uno diceva questo avveniva negli anni 70, dai, però forse su, 80. Dai. Questo non credo. Appunto. Però il massimo di oggi è... Il massimo di oggi lo regala la Norvegia, un paese apparentemente civile. Questo è il massimo di oggi. Ah, per tutti. Ecco qui. La Norvegia, paese apparentemente civile. Che cosa nonostante ha fatto? Nonostante la condanna contro quel maiale nazista di Breivik, quello della famosa strage, 77 persone uccise, 77 ragazzi persone sì. uccise. Adesso questo Breivik ha fatto causa contro lo Stato perché sarebbero stati violati i suoi diritti di detenuto, che non si capisce quali sono, e lo Stato gli dice: sì, Breivik, hai ragione, ti diamo tanti soldini. Ma come? Cioè, tu non eri a favore? Non eri a favore di, allora, del garantismo, del carcere civile, ma che cosa eccetera, eccetera. Adesso solo perché Breivik. Breivik che dice di no, vergognati. Ma non perché Breivik dice di no, perché mi sembra ridicolo. In Italia una roba così non sarebbe assolutamente possibile. Però ti dà l'idea del fatto del livello di civiltà di quel paese, che addirittura. Ma per me deve morire in carcere. Io vorrei capire che cosa. Anche secondo me, ma. Per te deve morire in carcere. No, deve ma io morire vorrei in carcere. Capire che cosa dicono quei quattro imbecilli che chiamano parlando dei nostri criminali. Mi piacerebbe sapere che cosa dicono della decisione della Corte Distrettuale di Oslo, ad esempio. Questo sarebbe molto interessante. Vabbè. 331.000 corone gli ridanno a Breivik perché sarebbero stati. Tu dovresti essere d'accordo. D'accordo con la Norvegia, ma che cazzo c'hai? Ma che sei impazzito? Sei, cioè, c'ho la tosse, che vuoi? Vabbè, ragazzi, questo c'ha la tosse alle 18:39, è una cosa pazzesca. Non è che c'è un orario per la tosse? tosse, non è che dice la tosse, scusi, dai, poi su, ma come cazzo si fa? Dice, scusi, dai, la tosse, scusi, puoi ma venire, ma che tosse, allora, dai, puoi venire. Comunque, la tosse tra le 6 e le 8 del mattino. Hanno condannato Buonanno, che definì fece i Rom, l'abbiamo già detto ieri, 12.000 euro. La frase è questa, la frase è questa: che li pagasse e basta. Ci sono, dopodiché, ci sono. Allora adesso io ho imparato che i Rom, gli zingari, sono il massimo di quello che c'è in Italia, della correttezza, eccetera, eccetera. Tutti gli altri no. Sono la feccia della società. La feccia della società. No, no, no, no, no, no. No, grazie. Sei un razzista. No, fai queste affermazioni, sei un razzista, perché la signora sono la feccia della società. Scusate, no. E tu sei un razzista. No, io il sono problema razzista. Non è Casa Pound, il problema della Lega sono quelli come te, che sei proprio fascista nell'aria. Ragazzi, la realtà è una sola, per carità, poi la legge, i processi, secondo me Buonanno dovrebbe opporsi a spada tratta. Proprio dovrebbe combattere fino all'ultimo, perché si può tranquillamente si possono usare espressioni forti. Che arriva no, anche a si te, possono poi, usare espressioni forti, non capisco. Però si paga se si supera un limite. Sì, amico mio, ma paga. Dai, ma chi è che non condivide questa roba qua in Italia? Dai, cioè, chi è? Non lo so, oggettivamente. È una discriminazione, andando la a calcolare, legge andando a calcolare i reati. Vedrai i reati. Che non lo dice più adesso. Vedrai che lo può pensare, perché può continuare a pensarlo, ovviamente, il pensiero, no, ma non è reato. Ti faccio un esempio. Campo Rom di Torcervara. Campo Rom di Torcervara. Senti questo signore, senti. Voi avete la luce qui? Solo con i generatori, con i gruppi. Perché non mi stereste di età? Perché io sono ricercato. Come sei ricercato? Non mi riprendete perché sono ricercato. Signor Rom. Un po' hai ragione tu, però si fanno intervistare. Cioè, dov'è? È abbastanza incredibile. Dove qual è un posto non esiste al mondo dove un ricercato arriva a farsi riprendere dalle telecamere? Sì, sì, poi gli è venuto lo scrupolo e dice: però non mi riprendete. Non mi riprendete. È la beffa dello Stato. Sono però, non ricercato. Sua. Sono ricercato. Lui cosa fa? Lui fa il criminale nella vita, mi pare, no? Questo fa il criminale e lo Stato. C'era il anche Salvini. C'era anche Salvini. Spero che stia guardando, oltre che Salvini, anche la Polizia di Stato e i Carabinieri, perché uno che va in onda dicendo però non riprendetemi perché sono un ricercato e si sa dove abita abusivamente, quindi cortesemente andate a pigliare quel ricercato. Devo dire la verità, ragione. A Torcervara, uno davanti alle telecamere, Rom che dice non mi riprendete perché ce vai allora davanti alle telecamere, non mi riprendete perché sono un ricercato dentro il campo Rom, dentro un campo Rom, ma ti rendi conto o no? Impunito dentro un campo Rom un ricercato, dai su. Però c'è un imprenditore del nord che è anche un politico, della fu sciolta civica, adesso si può chiamare tranquillamente sciolta civica, che si chiama Librandi, che conosciamo bene, il quale dice che nelle sue aziende vuole assumere dei Rom. Adesso dimmi te se questa roba qui non è razzismo. Librandone, cioè questo qua è Librandone. Razzismo puro, è puro razzismo, le quote, pura discriminazione. Quote. Tu dimmi perché... In nome di non so quale. Ma forse lo farà per dare un segnale, perché si dice assumo tu i Rom. No, forse perché in genere si dice tu assumeresti mai un Ma Rom. Devi e tutti assumere, dicono di no. Devi assumere una persona che è capace. Quello non c'è dubbio. Devi assumere ma una persona. Con Rame saranno capaci. Ma lui, evidentemente, cosa dice? Dice: siccome nessuno assumerebbe mai un Rom. Sentiamo. Sono disponibile anch'io ad aprire la porta della mia azienda dei Rom a qualche Rom che voglia venire a lavorare, come l'ho già fatto con i carcerati, li abbiamo recuperati e non è stata una cosa facile. E dice pure: imprenditori, non fermatevi davanti a un curriculum di un Rom. Imprenditori, non fermatevi davanti a un curriculum di un Rom, perché sono pochi, ormai li abbiamo integrati quasi tutti, così dopo Salvini non ha più questa pubblicità gratuita. Dice tra i Rom anche premi Nobel, ma mai tra i leghisti. Questa è buona però, questa è buona, bella battuta. Però. Ci sono dei premi Nobel, aspetta. Ci sono dei grandi giocatori, vabbè, delle persone molto serie. Sì, vabbè, quindi... ce l'abbiamo avuto anche noi, anche un campione di boxe. Sì, no, però, c'è anche un premio Nobel. Dice, io non ho mai visto un leghista premio Nobel, non so, mi dica lei. We'll be right back. ragazzi, però ragazzi, in realtà l'audio del giorno è un altro. L'audio del giorno è un altro. Abbiamo naturalmente i rom, per carità, quello che dice non mi riprendete perché sono ricercato. Avremo anche Adinolfi in grande spolvero a Mattino 5 su Mediaset. Però mi fanno notare che nella prestigiosissima trasmissione chiamasi Di Martedì, su una rete che Parenzo conosce bene, che è la rete dove lavora, del signor Cairo, la 7, c'era ieri sera a un certo punto una nutrizionista, perché talk show si occupano adesso praticamente in maniera continuativa di alimentazione, vegani. Eccetera eccetera, una nutrizionista che si chiama Rasio, credo che sia una nutrizionista, no? Non sbaglio. La signora Rasio, che parla della tavoletta del cesso. Allora, tu quando vai a cagare, o a pisciare, entrambe le cose, ti giuro, di martedì, poi non ci rompete i coglioni a noi, però di martedì, signor Floris, signora Rasio dice bisogna chiudere la tavola quando tirate lo sciacquo. Senti questo. Perché chiudere la tavola di martedì la 7? Forse non è molto elegante, però attenzione quando usiamo il gabinetto, chiudiamo sempre il coperchio prima di tirare l'acqua, perché lì quei batteri volano e gli piace molto mettersi nello spazzino dei denti. Adesso, amici miei, è una osservazione acuta. Perché quando io parlo di pulizia non va bene. Tu ne parli in modo non diverso, va bene. Però. Invece, quando uno invita martedì una che parla di tavolette d'accesso, di germi e di merda, non ha usato, perché non ha usato nessuno di questi termini, cagare, ad esempio. In senso letterale, vai a cagare non e vedi, ha usato di, chiudere, e vedi di chiudere di la tavoletta d'accesso, come dice. Vanno usate, ad esempio, ti do un'altra notizia sulla quale sto lavorando, ad esempio, però la dico con un linguaggio più educato. Cioè, quando tu vai a fare l'aperitivo e a mangiarle. E a mangiare no, le però, patatine. Però ragazzi, adesso torniamo, non lascia perdere adesso. No, ma hai ragione. Le no, fai ti dopo. Ti do tu la chiudi la tavoletta, o no? Sempre, tutte le volte, però non per quella ragione lì. Io la chiudo io perché non la voglio chiudo, più. Io la lascio aperta la tavoletta. Tu non fai testo, tu sei uno che non si lava, sei uno sporcaccione, non fai mai il bidet, ma non è che fai testo tu. Fanno testo il 90.9% delle persone che frequento, che per fortuna si lavano e non puzzano. Ma scusate, quando uno vicino, va al bagno, io non mi scordo il gesto di chiudere la tavoletta, perché cosa? Perché i germi poi vanno negli spazzolini da denti. Ma siete veramente pazzi. Siete pazzi. No, ma ti dico di più, quando vai a fare l'aperitivo al bar. Sì, però ti devi fermare un attimo. Non devi prendere le patatine. Perché il 90%, perché se tu vai lì con un microscopio, adesso lo vedrai in un servizio che sto facendo, se tu vai lì con un microscopio, nel 90% dei bar la gente va a far la pipì come te, non si lava le mani e poi prende le patatine. Quindi nelle patatine che sono sul banco dei bar, ma chi si io mangio le patatine, mangiare, per cui è un altro discorso. Ti piace mangiare la pipì? Ma io le olive per esempio, tu non le prendi le olive? No, da quando ho scoperto questa cosa. Da quando hai scoperto non più, perché pensi che le esalazioni del piscio della gente dentro i bar vanno a finire sull'olive. Ma non le esalazioni. E che cosa? I microbi? Che cosa? Che ma cosa? Le mani? Tu le vai mani? In bagno, nel bar del bagno, tocchi il tuo strumento. Il bagno no? del bar, sì. Nel tuo bagno del bar. E il 90% non si lava le mani e perché sono sporcaccioni come te. Va lì, prende l'olivetta e lascia i suoi germi nell'olivetta. Vabbè, che e sarà mai. Continuate vabbè a fare porcherie. Zanzare, Uakbar. Zanzare, Uakbar. La zanzara. Stanotte una zanzara non mi faceva dormire, do la caccia a terribile bestiaccia. Adinolfi onora il padre e la madre e non uccidere. Senti. Io dico solo una cosa, noi dobbiamo ritornare forse a dei principi primi, e dei principi primi io li leggo, ma sarò accusato di bacchettonismo, ma onora il padre e la madre e non uccidere, sono comandamenti sacri su cui non si può fare alcun'altra cosa che osservarli con rispetto e con la capacità di poi applicare le pene conseguenti che il codice penale dà per coloro che infrangono questo tipo di sacrale questione che riguarda la vita. Vabbè, non uccidere è già previsto dal codice penale, ma onora il padre e la madre, che cazzo c'entra? Non è che... Beh, è un comandamento. Ah, ho capito, ma non è che deve essere trasferito nelle leggi dello Stato, cioè quello vorrebbe trasferire nelle leggi dello Stato qualsiasi cosa che riguarda la religione cattolica, e questo mi sta sui coglioni, sì, scusa. Dovrebbe essere innato, diciamo. Vabbè, ma appunto, onora il padre e la madre, ma che è? Onora il padre e la madre? No, deve avere un rapporto normale, non devi onorare, non bisogna onorare nessuno, onora il padre e la madre. Sì, ma dai, cioè... su, ma che è? Io onoro il padre e la madre, certo. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Alberto dalla provincia di Lucca, vai! Buonasera, Zanzaroni Tigre! Dimmi, dimmi! 24. Allora, Alberto da provincia di Lucca, piccolo imprenditore. Volevo dire, ieri sera ho sentito il Papa ha fatto... arrivare in Vaticano 14 immigrati. 12, no? 12, sì. Allora? 12, vabbè, no, ieri, insomma, nei giorni scorsi. Allora? Sì, giorni. Ma come dici tu, siamo degli ipocriti. La Chiesa è un'ipocrita, forse anche più che noi, poveri cristi, che siamo... Ma abbiamo già detto ieri, operazione di puro marketing. Sì, infatti è quello che dico anch'io. Voglio dire, tutti li vogliono, poi nessuno li prende. È facile fare così, e chi li prende è chiaro che ci fa il business, come è successo che magari li ammassano dentro a questi agriturismo, a questi agli agriturismi, senza magari poi sapere se tutto è in regola, antincendi. Poi noi, vabbè, Alberto, allora ma che vuol dire? Non ho capito, dunque che cosa vuoi dire sul Papa? No, che nessuno è un ipocrita, nonostante che il Papa si fa vedere bellino, è chiaro che non va bene così. Cioè, ma perché non si può dire che il Papa... Non ho capito, non si può criticare il Papa in questo paese. Non ho capito. Alberto critica il Papa, gli sta ovviamente, ma... E allora, appunto... È il capo spirituale di una comunità che conta milioni, miliardi, miliardi di persone. E allora? Ha fatto... Ma sì, si può criticare, infatti lo state facendo tranquillamente. Esatto, ma non è questo il tema. Il fatto è che lo si critica perché si è preso carico, non soltanto predicando, ma di persone. Operazione di marketing, di pura... la Chiesa, che deve fare? Di pura apparenza. Nicola, Nicola D'Ascoli. Alberto, grazie. Nicola D'Ascoli. Sì, eccolo, un attimo, esco fuori da... Senti, Crucia, ti volevo dire, questa trasmissione dura troppo poco, qua la gente si vuole lamentare. Nicola, cerca di parlarmi meglio, se no non ti capisco, vai, dimmi. Allora, qua la gente è arrabbiata, la trasmissione dura troppo poco. Vabbè, d'accordo, adesso non è tempo di parlare della durata di questa trasmissione, che cazzo ce ne frega, dai, forza. Volevo dire del signor Parenzo lì, dottore. Ma può essere che non può prendere mai un'opinione. Ciao, non mi hai mai rotto già le scatole. Federico D'Asti, vai, Federico D'Asti. Luciani, volevo dire a Parenzo di fare il furbo con questi cazzo di rom, che sempre lì a difenderli. E solo questa settimana qua hanno appena confiscato 1,5 milioni di euro ai rom di Asti. Quelli sono criminali, vanno... Ogni sabato sono ma quelli sono criminali. Sono gli unici a viaggiare con banconote da 500 euro ma in locali. Ancora fino allo sfinimento ripeterò che le persone compiono crimini e sono punibili singolarmente, non in quanto gruppo etnico. È questa la cosa che mi vabbè, arriva Federico, che cos'altro hai da dire sui rom? Niente da dire, niente. Volevo dire che io lavoro nelle discoteche e viaggiano ogni sabato con le mazzette da 500 euro tutti. In tutti i casinò ormai viaggiano solo più dei rom pieni di banconote da 500 euro. Come cazzo fanno ad avere questi 500 euro? Tutte banconote viola. Dove cazzo le prendono? Dove le prendono sono secondo te? Sono tutti così, Parenzo. Sono tutti così, mi dispiace. Ciao Federico. Tutti. Marco Varese, vai. Ciao, ciao. Marco. Buonasera Giuseppe, prima volta che chiamo. Buonasera. Dimmi, dimmi, dai, veloce, vai. Allora, io sono per la pena di morte. Ma prima... pena di morte per che cosa? Per tutti quelli che ammazzano. Tu ammazzi una persona, sì? Io ti ammazzo. Molto semplice. Molto semplice, con questa voce così bassa. Molto così. Semplice, certo, molto semplice. Cioè, tutti, io ammazzo, tu ammazzi. Sì, esatto, in primis. Secondo Giuseppe, purtroppo siamo in Italia, c'è il Vaticano. Sì. E purtroppo finché ci sarà il Vaticano in Italia, non potremo fare determinate leggi. Okay, per esempio? Questa è la verità. Per esempio? Come la pena di morte. La pena di morte. A te piace il fatto che uno se ammazza viene poi ammazzato. Giusto, ma come la vorresti la pena di morte? Spiegami. La pena di... Se uno ruba... Giuseppe, ascoltami bene. Se uno ruba, io ti taglio una mano. Ecco. Sì, okay? L'Arabia Saudita. Esatto. Non so se taglia la mano. So in certi contesti bisognerebbe fare così. Ecco, si trasferisca lì allora. Non so se tagliano ancora le mani l'Arabia Saudita in realtà. Sì, la tagliano, le tagliano. Cioè, secondo te, se uno ruba, taglio della mano. Giusto. Ma tu stai parlando seriamente oppure ci stai perculando? No, no, no. Sono E invece se uno uccide un'altra persona, ma tu con la pena di morte come te la immagini? Col patibolo, con la sedia elettrica, con... Assolutamente, vai in un lettino, ti facciamo una bella punturina, dormi, arrivederci. E arrivederci. Arrivederci. E i rom che facciamo con i rom? Li deportiamo? Che facciamo con i rom? Con i rom chi ruba? Chi ma ruba? I ruba possono rubare anche i non rom, cioè possono rubare tutti. Certo, infatti, ma per me è tutto. Io sono. Ma in generale con i rom che facciamo, dato che siamo, abbiamo preso questa china? Con esatto, i rom, no, ti spiego, ma io sono. Io sì. sono contro i rom, contro quelli che contro sono, diciamo, dei ladri. Sì. Chi lavora, chi viene qua per prendersi la certo, pagnotta. Non c'è dubbio. Intanto pena di morte per chi ammazza. Lasciativo parenzo e alla defecazio non ci penso. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Ieri sera mi è apparso Parenzo in sogno, entrando dalla finestra a bordo di una ruspa. Brum, siamo veramente al top. Mamma mia, quanto macchiappa Natania. Parenzo, hai mai mandato a fanculo qualcuno guardandolo negli occhi? Ieri ho conosciuto una tipa di Parenzo in Croazia. Me la son fatta pensando a te, David. Traffico. Sai chi vuole intervenire, David? Sai chi vuole intervenire? No, no, David, no, sai immaginare. Chi vuole intervenire? Sai chi vuole intervenire o no? Dimmelo, sai chi no, vuole intervenire? Chi vuole intervenire? Vabbè, ci sappiamo. Lores, la signora Lores. Ah, la nonnina che spara. Sì, la certo. signora Lores. Mancava da un po'. Amica mia, che vuoi? Dimmi, dopo il tuo ultimo intervento, qui sono volati veramente, è successo veramente di tutto. Cara Lores, perché ci stai chiamando stasera? Cos'è che ti ha spinto? Ciao Crociani. Dimmi, con questa voce gentile, dimmi. Mi ha spinto la rabbia che ho con Bonanno. Che succede? Come con Bonanno? Che è successo? Sì, il giudice ha avuto ragione, ha sbagliato Bonanno, doveva dire, ha sbagliato, ha detto che i rom sono la feccia dell'umanità. È un cazzone, i rom non sono neanche parte dell'umanità, i rom sono solo merda. No, vabbè, Lores, dai. Io mi auguro veramente. Che cosa ti auguri? Qualcuno. Però parla a voce alta, Parenzo, no, stasera. Sei dico, voce un mi po' auguro, bassa. No, la voce è normale. Mi auguro che qualcuno prenda dei provvedimenti. Cioè, non è che la gente sì, poi impunemente. Sì, guarda, è tardi. Cioè, si è superato il limite da molto ormai. Non me ne frega un cazzo, guarda, non ho niente da perdere. No, e la sua fortuna è che hanno chiuso gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, quelli che erano i manicomi criminali. Non voglio neanche parlare. Poi sì. hai detto una cosa giusta, sì. ma io non no? ho capito. Sì. Spiegami, Lores. Lores. Non vedo pienamente il marketing Aia. Del Papa Nero. Cioè, il? Non ho capito. Il marketing del Papa Nero lì, no? Ma non è il Papa Nero, è argentino, non è nero. Siamo arrivati all'anticristo, siamo arrivati e questo sarà l'ultimo Papa, per fortuna. Ma che ne sai che sarà l'ultimo Papa? Beh, lascia che lo pensi, poverino. Grazie con questo Papa, perché era ora, perché sono 2000 anni che prendono per il culo Dio ed è giusto che sia così, che la Chiesa Cattolica sparisca veramente. Ma cos'è che ti sta sulle palle di questo Mancava, Papa? Spiegami, Lores. Stupidaggine così. Cioè, prima di tutto la falsità sua di farsi chiamare Francesco ed è un gesuita è contro Vabbè. Natura proprio eh. è contro natura è contro ma cosa natura. Fa questa qua nella vita tutto prima il giorno nel giorno normale a parte quando poi, chiama poi, cosa poi, fa poi il fatto che la chiesa è la più grande setta massonica è la più ricca e sì. la più potente del mondo. Vabbè, adesso setta massonica messo, prima hanno fatto il Papa perché non dobbiamo dimenticarci cos'è non che non dobbiamo dimenticare tanto, cazzo che fa il Papa sono quei bueloni di popoloni di ricconi di vescovi cardinali però, che Lores... sono i principi della chiesa no? che sono dei papponi proprio i principi della chiesa sono i primi papponi del mondo veramente però scusami Lores se torniamo il Papa. Torniamo vabbè prima ma che letto, c'entra prima non ho letto Wojtyla il Papa è venuto vabbè lasciamo perdere perché... Lasciamo perdere voi tira. È diventata anche un'esperta non ho capito, di non ho capito chiesa, che cosa hai contro i rom. Spiegami che cosa hai contro i rom. Cioè tu pensi che la condanna data a Bonanno 12.000 euro per aver definito i rom la feccia della... È troppo poco dovevo anche dire ma no ma sì ma come si fa a dire che fanno parte dell'umanità quelle merde lì. Ma non sono parte dell'umanità. No, guarda, ne ho visto un paio troppo duro. Ho capito, ma potrebbero portarti in tribunale per queste cose che stai dicendo. Magari fosse. Ti tolgono magari anche fosse, la casa. Ti tolgono la casa dove abiti. Non ce l'ho, sei una tizia, che bello. Guarda, io mi sono liberata di tutto perché lo Stato italiano credo mi ha derubata di tutto, no? È lo Stato italiano. E adesso lo Stato italiano la paga. Lo Stato italiano è terrorizzato dall'idea di Lores. Lo Stato italiano è terrorizzato dalla guerra di Lores. È terrorizzato lo Stato italiano. Non devono mai ridurre le persone proprio a raso terra, perché queste persone. Scusa, non me, ho capito bene, Lores. Non hanno più paura di niente, hai capito? Adesso, faccia a faccia, non potranno. Tanto i Rom, se mi denunciano neanche, chi cazzo se ne frega? Non ho neanche una bicicletta, io non niente. È mio. Ah, però il telefono, purtroppo, per chiamare ce l'ha. Purtroppo, il telefono ce l'ha ancora. Purtroppo, ma per telefonare. Eccola qua che è esplosa. Vedi? Lores. Il telefono per chiamare ce l'ha, vedi? Lores, non ho capito, ma stasera sei collegata da dove? Da uno scafandro? Da dove? No, sono a casa. Insomma. E tuo marito? Ma chi te, un povero marito? Poverino, mio marito è morto, povero. Ah, è morto, è vero, sì, è morto. Non mi ricordavo, sai, si accavallano talmente tanti personaggi che non mi ricordo tanti più matti, di tuo marito. Ride. Morto il marito, le patate, vabbè, vi devo lasciare. Le patate al forno? Sì, anche il pollo. Pollo con le patate al forno. Dopo aver detto che i Rom sono una merda, che il Papa è il Papa nero praticamente. Sì. L'anticristo. L'anticristo. Cioè, questa è la cosa incredibile. La signora Lores, indipendentista veneta, se non mi ricordo male, giusto? Sì. Ecco, se te ti vengono i carabinieri a casa, che dice ai carabinieri? Siete di uno stato straniero? Veneta, è tutto depositato in municipio. No, sì, ma è uguale, ma non cambia nulla se tu depositi in municipio. Se voi studiate la storia, ma non c'entra niente, i carabinieri non lo sanno, non lo riconoscono questa cosa. Ma io gli do le carte. Ma quali carte? Le carte del manicomio gli dai. Ma chi? No. E anche il mio passaporto veneto. Io non sono italiana. Se voi studiate un questa po' è da internare, popolo, è da internare. Ma no, anche Parenzo è veneto, però, anche Parenzo è veneto. Certo, venetissimo. Ma guarda, lascia stare. Sì. Purtroppo le disgrazie, i disgraziati nascono dappertutto. Sì, ecco, no, perché non ho capito, se ci fosse lo Stato veneto, che faresti? Toglieresti il passaporto, la carta d'identità a Parenzo? Non ho capito. Ma però, no, povero. No, fino a questo punto. Nella piccola Repubblica Veneta, la signora Lores, cretino, è stata la più grande. Come si inalbera? Ma come si inalbera per questo? Cioè, uno gli dice che è morto il marito, gliela frega niente. La Repubblica Veneta è impazzita. Che incredibile, però. Scusa, cioè, ride perché ride che il marito è morto, gli dici che la Repubblica Veneta non esiste, impazzisce. Lores, vai un attimo col telefono. Non so se c'è il telefonino o il telefono fisso. Vai un attimo a controllare il pollo con le patate. Un secondo, vai. Vai a controllare. C'è un profumino qua che è la fine del mondo. Pollo con le patate. Manco che se fosse di giù. Profumo, senti. Buona. Non c'è niente da fare. Perfetto. No, prendimi un attimo una patata, mettitela in bocca un attimo, voglio sentire com'è. Se... Ciao, devo andare. No, la patata sul serio, non la patata quella che intendi, la patata al forno. No, guarda che io quella roba là non l'ho mai fatto, non l'avevo neanche pensato. Ma io non t'ho mai detto una cosa del genere. Voglio capire, se la patata è cotta al punto giusto. È perfetta, l'avevo qui nel piatto, tirata fuori 2 minuti fa e l'ho assaggiata adesso. Ma scusa, Se vuoi passare da casa mia, vieni. Mamma no, amica mia, io sto a Milano, sono 19:26, ma che te devo dire? Ciao Lores, ciao. Antonio da Latina, vai! Pensa Antonio la serata da Latina con Lores, pensa te. Ma posso, io mi sa che passerò prima o poi da Lores. Ah, non avevo dubbi. Antonio da Latina. Buonasera, mi sente? Sì, Luciani? Dimmi. Niente, io volevo dirle per quanto riguarda quel fatto che lei ha detto inizialmente sulla tavoletta del bagno. Allora? Sì. Allora, io sono un responsabile della sicurezza sul lavoro. Responsabile della sicurezza sul lavoro, allora? Ci sono degli studi fatti che ci sono al momento in cui uno va in bagno, sì, potrebbero arrivare delle micro nebulizzazioni anche alla distanza di circa 8 metri. E dunque? Ora però va chiusa, no, va chiusa la tavoletta, no, sì, ma sono tutte stronzate, la tavoletta va lasciata anche aperta, non succede nulla, che cosa sì, vuoi, che casa, cosa esce? A casa sono d'accordo, a casa sono d'accordo, è ovvio che nei locali pubblici lo spazzolino di detenti non ce lo vado a mettere lì vicino. Appunto, allora... Però ci sono degli studi che confermano le micro nebulizzazioni anche a distanza di 8-10 metri. E dunque quindi, che bisogna fare? Bisogna ogni volta ricordarsi di chiudere... No, allora, sono d'accordo con lei per quanto riguarda il fatto che bisogna... Però è forte sta roba, è informazione... Ognuno fa come gli pare, su questo siamo d'accordo. Però le volevo soltanto dire che ci sono anche questi problemi qui. Ecco. Vabbè, ciao amico mio, Alfonso da Napoli, Alfonso da Napoli, Alfonso da Napoli, vai Alfonso. Buonasera, io volevo intervenire sulla questione di Nolfi. Devo dire la verità, poi ho sentito le eresie che ha detto quella tizia di prima, per cui mi verrebbe a replicare, però mi trattengo. Vorremmo precisare la figura di Ariel Nolfi come nasce. Lui era un giocatore di poker. Era un giocatore di poker, no? Ho capito. Vabbè, allora non è una novità, ci stai raccontando una cosa che sappiamo. Dunque? Se mi fai finire, io ti dico il problema qual è. Il problema è che lui adesso ha avuto una ribalta con questo cazzo di Popolo della Famiglia e spende delle quali lui evidentemente non ha nemmeno contezza, perché prima diceva io vorrei che fosse introdotto nel codice penale il reato perché non onorate il padre e la madre, posso che possa anche essere una cazzata, non c'è dubbio su questa cosa. Lui chiede la sanzione per questa cosa qui, ma non ha senso. Alfonso, non l'ha chiesto la sanzione, però. Ma che fermo là. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different. Scopri il nuovo modo di guidare su drivedifferent.it. La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800 24 0024, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Siamo veramente al top. Grazie Roberto D'Agostino, grazie, è stato chiarissimo. Allora ragazzi, nuovo tapiro ieri sera per Mikhailovic. Attento, notizia dell'ultimo minuto. Ogni volta mi devi interrompere. A Palazzo Grazioli, in ma questi chi se ne minuti, frega, che Berlusconi sta decidendo di far fuori Bertolaso. Sì, sì, non, non la sta prendendo bene l'uomo, mi dicono. La sta prendendo bene su Bertolaso. Ma ti credo, ma fino all'altro giorno, scusa, hai detto che Bertolaso era l'unico candidato possibile. No, ma hanno fatto possibile. I manifesti soprattutto, ci fate i manifesti di tutto. Su, ma che buffonata è, dai. Dunque, adesso verifichiamo tutto, Verifica. Intanto Mikhailovic, secondo tapiro. Chi è Mikhailovic? Ex allenatore del Milan, serbo. Dopo la nostra intervista alla signora Ferrari, Paola Ferrari, sentite come reagisce. Come reagisce? Senta, abbiamo visto che la signora Ferrari, la commentatrice della RAI... Chi è il signore Ferrari? Ferrari, la signora Ferrari, la commentatrice della RAI. La moglie di vecchio Ferrari? No, la moglie di Benedetti. Sì, ha detto che lei, insomma, quando l'ultima volta... Che sono un caffone. Ha detto che sono un caffone. È una grande stupidaggine, sì. Una frase offensiva. Certo. È stato molto caffone. Ma guarda, mi sono espresso male, no? Io penso che comunque non sono razzista, però donne non dovrebbero parlare di calcio, perché comunque non sono adatte a parlare. Volevo dire certe donne, no? Non tutte le donne, perché ci sono anche certe donne che capiscono di calcio. Non è caso di Ferrari. Cioè, peggiora la situazione, a parte che non voleva dire quello. Cioè, non voleva dire quello, voleva dire le donne in generale. Che disastro. Poi, di fronte alle critiche legittime, credo, della signora Ferrari, che l'ha definito un cafone, dice: lei non capisce una mazza di pallone, ma non volevo dire tutte le donne. A sinistra, io ti voglio bene, però amico mio, basta, no, non puoi difendere l'indifendibile. Dì, ho sbagliato. Oppure uno potrebbe anche dire un'altra cosa, potrebbe dire: è vero, non ho mai sentito in tanti anni una donna che dice una cosa sensata di pallone. Può anche essere, per carità, può anche essere. Cosa? cosa succede se no un... fermati un attimo, che fermati, c'è? Perché mamma qua mia, perché mi devi interrompere, mi segnalano il quotidiano Libero, lo conosci Libero? Sì, no, Libero, certo, quotidiano. Come no, certo, ha fatto un articolo da questo certo. Certo, appunto, l'inviato di Del Debbio smaschera Parenzo. Su che lo... cosa? Su che cosa? In quel Libero, mi è arrivato l'inviato Del Debbio scritto... Poletti. Sì, ah, hanno fatto un articolo. C'ha la foto di Parenzo, sì, dei Campi Rom. Cioè, come no, Santino. Ma aspetta, il testo di quello che hanno scritto, l'inviato di Del Debbio smaschera Parenzo, l'ho visto in un campo di zingari. Te lo giuro, con un messaggio rivolto a Cruciani, balla, perché l'aveva mandato a me, no? Sì. Tu hai tutto sbagliato. Roberto Poletti, l'inviato di Quinta Colonna della Televisione Del Debbio, ha rivelato un particolare curioso su Parenzo. Poletti, cioè questo è il modo di fare gioco. Poletti stava registrando un servizio e all'interno delle loro casette, al posto della foto di Padre Pio, c'era la foto di Parenzo. Scrive Libero! Il quotidiano Libero scrive questo, capito? Cioè, non hanno capito che era uno scherzo di Poletti. Ma no, non è uno scherzo, il ma ha detto titolo, che è vero. L'inviato di Del Debbio smaschera Parenzo. Libero lo scrive. Ma ragazzi miei, dai, ma su. Ma ti rendi, ma tutto... Soffiate, lo chiede. Il titolo è Soffiate. Ma dai, vabbè. Belpietro, dove sei? Belpietro, dove sei? Ma io non lo so. Ma ti rendi conto? Vabbè ragazzi, cosa succede? Cosa succede se un tifoso del Papa, un fan del Papa, chiama una sezione della Lega Nord, caro Parenzo? La sezione della Lega Nord in questione credo che sia vicino Barese, se non sbaglio, vicino Barese. Una la sezione... Lega. Cos'è la Lega? No, ma stai a sentire questa cosa qua. Allora, un tifoso del Papa, incazzato con la reazione di Salvini, eccetera, eccetera, chiama una sezione della Lega Nord. Risponde un signore. Risponde un signore. Sarà il segretario, sarà, non lo so, un militante. Senti, senti l'effetto che fa. La Lega Nord, buonasera. Chi come voi è fuggito dalla propria terra a causa dell'oppressione, della guerra, e un fratello con cui dividere il pane, la casa, la vita. Siete invece un dono. Ha sentito il Santo Padre? È rimasto senza parole, eh? I rifugiati sono un dono di Dio. Praticamente il dono delle cooperative. La RUA, guardi, nel mio paese prende 2.675.000 euro, le ho fatto adesso il conto, neanche a farlo apposta, prende 2.675.000 per gestire 126, pensi, più che di Dio è un dono per quelle cooperative della Caritas. Ma non vi vergognate. No, lei si deve vergognare. No, no, no, no, no. Lei si deve vergognare. Lei si deve vergognare. È una schifosa che guadagna sulla pelle degli io, altri, schifoso. Negrieri. Ma siete come i nuovi negrieri, siete i nuovi negrieri, ascolti me, ascolti. Lei se la prende con quei poveri disgraziati? Si vergogni, si vergogni, voi leghisti, si vergogni, fa schifo, negriero, negriero. Lei è razzista, razzista, è un negriero, razzista, è un negriero. Io sono razzista, io sono razzista, lei è un negriero però. Si penta. Lei dipende qui lei e ci guadagnate. Voi fate schifo, fate ma schifo. Voi chi? Fate schifo. Ma voi chi? Lei non si... che rappresenta lei. Si penta. Lei si, le sue responsabilità. Si penta. Si penta lei. Si penta. Si vergogni. Razzista. Lei è un nazista. Si vergogni. Guardi, dico, faccio la stessa cosa che fate voi. Chi ci guadagna? Chi è il negriero? Siete voi. Voi li portate qui per guadagnarci, che è peggiore. Io parlo, ma voi li fate morire. Si penta? Mi pento, ma neanche a morire mi pento. Comincia si penta? A lei che fa la morale agli altri. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Io razzista, è lei è razzista. Si vergogni, razzista, si vergogni, si vergogni. Si penta? Ci guadagnate. Ha sbroccato l'amico, ma, caro Parenzo, ma ha sbroccato. Sai che stavo pensando che e alcuni elettori leghisti sì. rasentano il grado più basso dell'umanità. Ma dai, cioè, proprio dal punto di vista non della dicevo, scala, no, c'era la scala Mercalli, ma non diceva la scala una cosa Richter, sbagliata. No? Non diceva una cosa sbagliata. Allora, l'elettore medio leghista rappresenta proprio, sai, il grado. Dici, qual è il grado più basso dell'umanità? Stai dicendo una cosa veramente una grave. Cosa abbastanza banale. Stai dicendo normale. Una cosa grave. L'elettore cioè, medio leghista. L'elettore medio leghista è il grado più basso dell'umanità. A sentire le telefonate di Radio Padania Libera, di questa. Di questa questa gente qua, se quello è l'elettorato della cosiddetta Padania, eccetera, intorno alla cosa, dai. Sì, no, questo è il punto. Se quello è l'elettorato della Lega, non ho dubbi che sia, e non ho dubbi che sia quello, quello è il grado più basso dell'umanità, ma non saprei che altri termini utilizzare, perché mi sembra evidente, insomma, scontato. Allora andiamo a Catania, Matteo, vai Matteo. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi, dimmi. Allora, ti ammiro per il tuo essere dissacrante e irriverente, però ti dovrei muovere un appunto. Questo va oltre quello che devo dire io. Dimmi, dimmi. Il tuo essere così irriverente e dissacrante non fa altro che esprimere il massimo senso di nichilismo ormai di questa società. Il massimo senso di nichilismo di questa società. Scusami se lo ripeto, ma non capisco, una mazza. Una società mortifera basata sulla morte, perché tu mischi in un calderone che non ti capisce niente, è massima espressione del relativismo, mischi pornografia, mischi religione, mischi politica, non fai altro che creare quella confusione, quel relativismo che è l'espressione imperante della cultura oggi. Non è male come cosa, però scusa, è una cosa che mi piace moltissimo. Dunque io mischio insieme religione, pornografia, politica in una sorta di nichilismo assoluto, in una sorta, diciamo, di cinismo mortale che abbraccia questa nostra società. Devo dire la verità, hai fatto hai dato una bella immagine, una fotografia abbastanza vicina alla realtà di questa trasmissione, di cui non mi pento nella maniera più assoluta. Grazie. Ora, per tornare, grazie, diciamo, cosa, grazie, però, perché lei lo diceva giustamente in senso dispregiativo, mi auguro. Dispregiativo, ma che faccia riflettere. Quindi che anche faccia riflettere? Non che riflette faccia... lui. Ma non riflettiamo troppo. Non vedrà che non riflette lui non riflette. Vabbè, Matteo, innanzitutto da dove ci stai chiamando? Scusa, mi spiega. Da Catania, precisamente da Mister Bianco. Con quale mezzo tecnico ci stai chiamando? Un telefonino senza auricolare, senza... Vabbè, allora dimmi, Matteo, caro Matteo, che mi volevi dire, allora, oltre a questa cosa qua? Due dimmi. Giorni fa c'è stata a Bologna la manifestazione nazionale dei comitati spontanei di cittadini per protestare contro le scie chimiche. No, veramente non sono a conoscenza di questa cosa, Matteo, non ha avuto grande rilevanza. No, non si è a conoscenza perché ovviamente gli organi di stampa, la radio non mettono in risalto queste cose. No, ma non c'è dubbio, certo. No, perché tu credi alle scie chimiche? Non c'è qui da credere o non credere, io ti dico solo una cosa. Dimmi. Dobbiamo attuare un'onesta ed obiettiva visione dei fatti. Un'onesta e obiettiva visione dei fatti, e quale sarebbe? E distinguere tra i dati reali oggettivi. Sì, però amico mio, non siamo al convegno di Bologna. Io voglio capire una cosa. Cosa vuoi dire? Che credi alle scie chimiche? Ma credo a quello che vedo a livello empirico, perché siamo... Vabbè, allora, ma perché ci hai chiamato? Per dire che cosa? Allora, perché non si parla di questo problema che ormai è diventato un problema? Perché non esiste. Quale problema? Non esiste. Ma le foto di che? Ma i video di che cosa? Delle strisce delle strisce degli aerei che vanno in cielo? Ma di che cosa? Posso parlare? Qui vicino c'è Sigonella. E allora che succede? Sigonella è un aeroporto militare. Ramstein in Germania è la più grande base aeronavale. Ora, questi voli che passano... Che fanno? Provocano inquinamento? Che fanno? No, io dico solo una cosa. Questi voli che a decine passano tutti i giorni Allora, in aria ristretta. Che succede? Ogni volo costa, io penso, milioni di euro. Chi li paga questi voli? Li paga, amico mio. Che cosa c'entra con le scie chimiche questo? Come cosa c'entra? Allora, io vedo tutti i giorni queste scie chimiche, l'alterazione dell'atmosfera, dopo un'ora che passano si annuvola il cielo. Ora io ti dico... Ah, beh, certo, cioè il cielo si annuvola a causa delle scie chimiche. No, le scie chimiche, ti dico una cosa, su web ovviamente trovi tutto il contrario di tutto. Matteo, io non ne posso più. Questa telefonata dimostra che il ministro della salute ha rinnovato il contratto con Radio 24 per curare i malati di mente. Eravamo in trattativa. Questo ha confermato che però è già... No, ma eravamo in trattativa, ti dico, non è ancora chiusa. Ho parlato con la Lorenzina adesso, che mi ha scritto: guarda, bravo, lo abbiamo rinnovato a tempo di record, il primo malato ha telefonato. Mi aveva scritto adesso, guarda, ce l'ho qui. Come Renzi, che ha detto perfetto. La TSO per quelli che parlano di scie. Tutti qua chimiche. Chiamano, tutti qua. Amico mio, ma sì, ma le scie chimiche non esistono. Tosciano. Non esistono le scie chimiche. Ma tu digli di sì al mattone, poi digli di no. Digli di sì, esistono le scie chimiche. Li vediamo. Gesù è morto dal freddo. Dai, avanti, se no non lo molla più, no? Non vediamo niente, ma non vediamo niente, vediamo dei segni che sono. Ma non puoi vedere quello che non puoi vedere. Ma non contraddire un detto cinese cosa dice? Che dice il detto cinese? Se una detto cosa la vuoi nascondere, la devi mostrare. E allora loro fanno questo, alla sì, luce vero, del sole, mostrano quello che stanno facendo. Sì, sì, altrimenti. Ciao, ma Matteo, ogni ciao. 5 minuti di notte sì. passano questi aerei? Perché passano? Perché la gente vola con gli aerei, la gente vola, passa. Ma non rotta, spiegare al matto. Ma sono fuori rotta. Io sono qui fuori rotta. L'ha deciso lui. No, l'ha deciso lui che fuori rotta. Sigonella a sud. Perché sono fuori rotta, dunque inquinano, capito? Perché dunque adesso, sono messi a posto. Adesso arrivano lì. Due persone vestite di bianco. Lei stia tranquillo. La riportano nel no, reparto. Parento, le mettono un catetere. Le fanno una piccola puntura in vena. E vedrà che nel giro di un'ora sta benissimo. Poi domani richiama se vuole. Parento, grazie. Nel 2001 c'è stato l'accordo. Sì. Italia, accordo del 2001. Accordo del 2001. Ciao Matteo, ciao, ciao. Ciao. Ma poi lui continuava a parlare, Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, beh, un amico, un mio amico sì. personale. Il tuo amico. Il mio perché candidato. Un mio amico arriva dopo. Il mio candidato. Il mio candidato. Dov'è? Sicignano, Sicignano, Sicignano. Sì, tanto entra la par condicio. Ma a me che cazzo me ne frega della par condicio? Non me ne frega nulla della par condicio. Una legge di merda che andrebbe cancellata subito, immediatamente. Ale. Ale. Pare che Parenzo l'ha fatta la puntura. Se vai avanti a quattro. Porca miseria, allora, porca. Ricordiamo chi è il signor Sicignano. Il signor Sicignano è quel bravo uomo che sparò al ladro. E Forza Italia, famoso partito degli onesti, decide di candidare uno che spara ai ladri. Ma beh, hanno paura? Beh, non Forza è Italia, no? Forza Italia che ha deciso questo, mi pare. No, che ma è, una, è interessante quello che fa Forza Scusa, Italia. Scusa, Francesco. Candida uno che spara ai ladri. Innanzitutto ottimo. Ti abbraccio fortissimo, come stai? Innanzitutto, come stai, caro Francesco? Io sto bene, sono abbastanza carico, agguerrito e incazzato. Più ma, di questo non ce n'è più. Ma bene, cosa farà in consiglio comunale ma qualora Dio non, eletto, qualora Dio, allora, Dio non voglia. Allora, quando saremo al consiglio comunale, decideremo di quello che faremo. Non è che lo puoi dire adesso che farà. Ecco qua. Esatto. Ho l'idea per ora... comunque Parenzo, se mi chiami in trasmissione te le spiego con calma. Senti. Per ora sappiamo che è candidato solo perché ha avuto il merito di sparare. Questo diciamo per beh, innanzitutto come il processo come va? Sei stato assolto poi definitivamente allora, il processo da quel giorno là ad oggi no, ufficialmente non so ancora nulla. Non sai nulla, non sai nulla. Cioè sei ancora formalmente indagato? Sono indagato e basta, non per Forza Italia non è un problema questo. No, anzi, dico per Forza Italia non è un problema. Cioè il fatto che lei sia indagato per Forza ma, Italia guarda, di per sé non è un problema. Io so che tu sei sempre agitato su queste cose. No, sono tranquillissimo io. Ti seguo ogni tanto. Però lasciamo stare ste cazzate vecchie. Sì, lasciamo stare. Parliamo di Sicignano Francesco. No, però scusami, Francesco, io adesso non ti voglio chiedere perché di quell'episodio là ormai risale a ottobre, chi se ne frega. Vabbè, ma non ho problemi, io rispondo a tutto. No, guarda, ma certo, ma voglio capire una cosa. È vero che tu, Parenzo, stai attento, fermo, tieniti sulla sedia, non ti arrabbiare troppo. Non no, ti arrabbiare. Non arrabbio mai. No, dico, no, Parenzo, lo sto dicendo, Parenzo. Ah. Allora, no, tu ti arrabbi, come no? Tu sei no, frizzantino. Sono tranquillo. Parenzo, tieniti sulla sedia. Sicignano ha denunciato insieme Renzi, Napolitano, Grasso. Gentiloni, Boldrini per tante cose, ma soprattutto Renzi e Napolitano per la questione degli immigrati, cioè perché spiegami ma velocemente però perché hai denunciato queste persone per l'immigrazione? Lascia perdere le Vanessa e Greta là. Dimmi la sola... anche lì è uno spreco di denaro comunque, perché a me quello che dà fastidio è lo spreco di denaro, almeno io la vedo così. Cioè tu le hai definite due collaborazioniste dell'ISIS, le due studentesse. Ma allora, se ci dobbiamo far prendere per il culo, va bene, per carità. Io non dico, io non sono io che lo decido. È la magistratura che deve indagarlo. Perché la querela che io ho fatto, ci sono la tutti querela. I presupposti. Sì, ho fatto una querela io. Ma dimmi un po', ma sulla storia dell'immigrazione, chi è che vuoi portare in tribunale? Spiegami. Allora, io lo devo leggere perché sennò. No, non legge, dimmi chi è che vuoi portare in tribunale. Allora, è il presidente della Repubblica, Napolitano, ex-presidente, Renzi, sì. Gentiloni, Alfano. E questo candidato in consiglio comunale a Milano per Forza Italia. Certo, perché non posso farlo perché ho fatto una querela. Era solo per sottolineare. Ma perché che... cosa, Francesco? Spiegami perché che cosa, di cosa sarebbero colpevoli questi classe signori? Politica si chiama questa qui. Immigrazione. Poi dici la gente non va a votare. Cioè, per forza. Favoriscono l'immigrazione clandestina per questo? Certo, dice anche Siciliano. Beh, certo. Dimostrami che non è così, perché c'è una legge, i clandestini vanno espulsi perché non li devi espellere. Pensa fammi capire. se pensa uno viene qui una volta a destra c'erano persone e te lo dico come almirante, capito? Sì, mi tocca difendere almirante rispetto a questi scalzacani qui siciliano, che l'unico merito che ha merito è quello di aver sparato e per questo viene candidato in così, e adesso denuncia siciliano napolitano. Ma questo è matto, ragazzi, è un paese finito da chiudere questo qua. Dovresti invitarne qualche duro a casa tua all'1 e quarto di notte, così ti candidi anche tu dopo, no? Ma chi devo invitare? Di immigrati, dice, di immigrati. Cioè, ma ti dà l'idea che già un... Cioè, questo qui è l'unico... Capito perché è stato candidato? Solo perché ha sparato e quindi diventa simbolo di che cosa? Ma cioè, viene mandato in consiglio comunale perché chiede il voto. Ma io sono tranquillissimo, ma perché lei chiede il voto? Allora, io lo chiedo perché le ingiustizie non le sopporto. Non le sopporto. Se stanno bene, sei libero di tenertene. A me lo sanno bene. Io nella cassetta della posta trovo una valangata di lettere anonime con cose, con ingiustizie, e io le prendo. Cosa devo fare? Vabbè, scusa, devo Francesco. Francesco, allora, io voglio capire una cosa. Berlusconi, ci hai parlato? Certo che ci ho parlato. Che ti ha detto? Bravo siciliano, mi raccomando, continua a sparare, spara cazzate, più tanto mi pare che quelle ti vengano fuori tranquillamente. Ascolta, quelle cazzate lì le spari veramente a raffica. Ascoltami, mi piacerebbe avere un confronto con te in televisione, ma proprio figuriamoci. Francesco, però aspetta, avete parlato di figa, avete parlato di figa con Berlusconi o no? Ma non diciamo cavolate, dai. Ma che ne so, magari avete parlato di figa. Ma finitela di queste cose. Il problema è uno solo, che qual è? Gli italiani godono di questo, perché hai visto il referendum, tutti che dietro le scrivanie sono tutti maghi, tutti artisti, tutti intelligenti, tutti qua. Poi alla fine, cazzo, quando c'è da andare a votare 30%. Ma va bene, un popolo così si merita questo, perché se non si prende la responsabilità, la consapevolezza della legalità in questo paese, siamo fottuti. A voi sta bene, a me no, io vado avanti. Senti, chi sta con me sta con me. Francesco, poi Parenzo non sta con me, che non vuoi che me ne porti. Spiegami una cosa, la prostata come va? La prostata ogni due ore. Cioè, ogni due ore deve andare a pisciare? Certo. Come vai se sei in consiglio comunale? È un casino. No, mi porto il vasino. Il vasino in consiglio comunale, certo, stupendo, certo. Il vasino da te. Classe dirigente questa qua. Vabbè, capito che c'è, che adesso uno no, c'ha colpa pure se si porta il vasino dietro, dai, su, cioè. No, vedi, il problema è che lui dice la classe dirigente, ma Parenzo ci crede anche, figa, ma è assurdo. Scusami, Parenzo, svegliati, a me no, mi tira ragazzi, culo a me fa vedere i brividi il fatto che uno così venga messo in lista, però poi per carità. Ascoltami, a me vengono i brividi, non ti faccio un elenco perché c'è un elenco che non finisce più, mi fanno i brividi, ma me lo cioè tengo la selezione me, della classe ascolti, dirigente così, ascolti, vabbè, comunque. Ma ascoltami, non sei ma tu scusa, che devi stabilire la classe esatto, di esatto, ma l'hai tolta la prostata o no? L'hai tolta la prostata o no? Ma no, la tengo ancora, voglio tenerla ancora un po', mi aiuta a camminare, capito? Un po' di peso in più, sono più saranno stabile. Contenti i suoi elettori, se ne ha qualcuno. Ma se sì, ne ha qualcuno. Ma staremo a vedere, Parenzo. Senti una cosa, ma la pistola ce l'hai ancora o no la pistola? L'hanno ritirata, no, me l'hanno tolta, non è che uno spara e ti lasciano anche la pistola. Gliel'hanno a Parenzo e a Librandi, che adesso Librandi ha chiesto il porto d'armi, capito? Predica bene e razzola male, capito? Come ha chiesto il porto d'armi? Certo, Librandi ha chiesto il porto d'armi, ma però in televisione va a rompere i coglioni quelli che devono sparare in aria, capito? Ma non ho capito, quando è che ha chiesto il porto d'armi? Te lo dico io, l'ha chiesto, vai tranquillo. Se io ti dico che l'ha chiesto, tu ci puoi mettere la mano sul fuoco, altrimenti siciliano non è come Parenzo, io cazzate non ne sparo, hai capito? Dico la verità. Francesco, allora mi stai dicendo una cosa, che Librandi, quello che dice, io non le armi, ha chiesto il porto d'armi. Verifichiamo subito. Sarebbe gravissimo. Verificalo. Sarebbe gravissimo. Chiamalo. Senti, ma tu che cosa useresti con i campi rom? Tu la ruspa come Salvini, via tutto? No, ma allora ascoltami, innanzitutto ascolta, non è così semplice, non lo risolvi da oggi. Aspetta a domani. Un attimo, fermo. Senti, là, che adesso fa lo statista. Fermo lì. E togliete un po' di sta cazzo di pubblicità. Date un affanculo. La zanzara. Sono Severino. Allora, 00 scontata 807 di qua, 00 di qua, WhatsApp 3937701. E certo. Ragazzi, io però una telefonatina ad Antinori più tardi la farei, Parenzo, Proprio una piccola telefonatina ad Antinori, ancora sta, un tentativo lo farei. È giorni che lo cerco. Parenzo, scusami, ma stavo pensando alla pubblicità, ma è un presidente che tu ami o stimi. Sicignano, so, Sicignano. Chi è questo che parla? Sicignano, Francesco Sicignano, quello che ha sparato all'altro a Babrio Dante ed è candidato per Forza Italia al Comune di Milano. Sì, aspetta, no. È sempre quello di prima. Sempre quello di prima. Sicignano, Sicignano. Francesco, non conosco nessun politico io che si chiama Sicignano. Fai nel cervello remoto così trovi il mio nome e cognome. Un lei è quello che ha sparato al ladro e per questo è stato candidato. Ho capito, sempre quello lì. Vabbè, tranquillo. Allora un altro pure si è candidato, tra l'altro, uno per la Lega, un altro a Rodano. Corazzo che fa rima con. Vabbè. Con che fa rima? Scusa, un presidente, che ami all'estero. Mondazzo, mi pare. Un presidente che ami all'estero, qual è? Che ne so io, qual è? La domanda è per me? Sì, certo, per Parenzo. Penso Olanda, ad esempio, la Merkel anche. Quelli ti piacciono. A me sai chi piace? Pepe Mujica, quello dell'Uruguay. Perché va a bere il caffè con la gente del popolo, quello dell'Uruguay. Non fai il giro con il la dittatore scorta. Dell'Uruguay. Ha fatto pure 12 anni di galera perché ha fatto un'esperienza. Invece il dittatore dell'Uruguay. Hai capito? Invece dei cravattini. Ma lo sa Berlusconi che a questo qui gli piace il dittatore dell'Uruguay? No, ma che dittatore? Ma quale dittatore? Ma che dittatore? Il politico deve essere amato, non deve andare in giro a prendere le tartate, capito? No. Io voglio capire una cosa. Mussolini era amato, infatti. Ma tu proprio insisti, proprio ti ci sguazzi ma dentro. Qualche cosa buona l'avrà fatta pure Mussolini, no, Francesco? A mio avviso ne ha fatte tante di cose buone, basta chiedere alla gente. Cioè, tipo che ha fatto di buono secondo te? Ha fatto l'INPS, ha fatto le ferrovie, se no stavamo ancora in giro col mulo e il carretto dietro. E me lo vedo già Parenzo sul muletto col carretto che va in giro. Poi che ha fatto di buono, oltre l'INPS e queste cose qua? Ma ha fatto tante altre cose, non mi tocco a fare l'elenco a parlare di musica. Ma che ne so, noi dobbiamo parlare avanti, dobbiamo ma ho capito, avanti. Ma se tu mi dici dobbiamo che dobbiamo vabbè, aspetta un attimo, Cicignano, un attimo solo, Francesco, ma non ho capito, che ha fatto di buono sto Mussolini, che era un dittatore, che ha fatto? Ascoltami, inizialmente non lo era un dittatore, era un socialista. Sì, ho capito. Anche... Allora, la bonifica a Pontina, se tu sai... Allora, ci vorrebbe lui perché tu sei di Sabaudia. Ci ha provato Carlo Magno, Papa Sisto, e lui ci è riuscito. Però poi tutti i grandi fanno anche gli errori. Comunque c'ha due coglioni così, c'aveva o no? Ma li aveva, forse ha fatto gli sbagli come ha fatto tutti i grandi, qualche piccolo errore, non c'è sui libri, ascoltami, la storia è scritta sui libri. Noi dobbiamo riuscire ad avere una classe politica leale, corretta, pulita, questo che non, c'è non dubbio. Fottono i soldi. Questo vabbè, questo il vabbè, loro questo concetto è di fottere i soldi alla povera gente. Basta. Ma tu hai paura di notte che vengano di nuovo i ladri a casa tua o no, Francesco? Ma certo che ci sono le paure, ma sapessi come vivo io, ma me ne sbatto le balle, il problema è questo, perché non posso vivere così. Ma siccome non hai più la pistola, hai paura, come vivi di notte adesso? Ma mi difendo, non preoccuparti che se vengono in casa mi difendo, il problema è quando vai in giro, ma non è questo. Ma come ti difendi in casa? Ha messo le mine anti-uomo, avrà messo come ti difendi in casa? La sera quando va al bagno cade sulla mina anti-uomo, perché a me mi rimproverano di essere sempre schietto. Avrà messo il filo spinato, le mine anti-uomo, le cluster bomb. Ma io guarda, così quando va in gabinetto esplode. Francamente non lo auguro a nessuno di vivere così, perché voi parlate, ma non avete. Parenzo parla. Il signore ci ha dato la testa, ma ci ha messo anche un po' di cervello, no? Però a tanti ha sbagliato, ne ha messo meno. Allora io ti faccio in un evento come il mio, voi non avete ancora capito. Il 73% che è con me degli italiani. Il 6% dice no, il 21% dice no. Sondaggi così a caso. No, perché io rispetto la loro idea, non la condivido. Però se tu vai a mettere su Google, no? Adrenalina, effetto da paura, allora cominci a capire qualche cosa. Ma com'è? Com'è? Dov'è che devi mettere? Non su Google, la politica su Google. Ormai. Dov'è che devi mettere la cosa? Scusa. Adrenalina da paura. Ma tu dove? Capirai. Su Google, metti su e ti vai a documentare, no? Adrenalina da paura su Google, sì. L'adrenalina, allora, in quei momenti là scattano gli ormoni dell'adrenalina, che sono sui reni, mandano su l'adrenalina e la persona che è lì non è più se stesso, perché ti si blocca lo stomaco, ti sale la pupilla, ti si induriscono addirittura le mani. Ok? Allora, se voi le cose non le capite, si induriscono, attenzione, quando uno dice si induriscono, che qui la gente pensa male. La gente pensa male. Vabbè, insomma, non è mica un male, No, perché ma te ancora tanti vecchietti che non hanno più quella facoltà lì. Ma te ancora ti tira? Ma sì, dai, Piazza, ma tu sei. E che ne so se ti tira o no? A parte che non sono di Sabaudia, ma comunque ti tira ancora o no? Non ho capito, ti tira ancora o no, Stuccello? C'è da parlargli un po' assieme. C'è un po' complicato. Le pilloline, eh? E vai giù di pilloline. Non l'ho mai usato, non l'ho mai usato. Parliamo di problemi. Vabbè, Francesco, ti saluto, ti devo salutare. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, professor, ciao, ciao, ciao. Chiamantinori, vediamo se risponde. Chiamantinori. Severino? Yeah. Sono Cruciani, ciao. Cruciani, che mi dici? Ma ho letto che c'è un traffico di ovuli là, 1.000 euro per... Ma guarda, senti, Cruciani, vuoi prendere una guerra pure tu? Guarda. No, ho letto. Hai letto, hanno già la via giudizio del signor Calabrese, la stampa, il mio giudizio della Corriere della Repubblica, hai capito? Vuoi portare tutto in tribunale? Vuoi anche tu anche un invia giudizio, stavolta non lo faccio. Ma che c'entra in via giudizio io? Non mai no, ma perché siccome ho letto che nei mesi scorsi... È falso. Cioè le buste con 1.000 euro è falso? Ma stai scherzando, tutte falsità assolute, non c'è niente. Quante donne vengono a portare gli ovuli nelle tue cliniche? Finalmente le italiane vengono tante, spontaneamente, con grande cuore. E non andiamo più in Spagna, dove sono andate per anni. Vabbè, c'è allora un mercato degli ovuli? Non c'è, no, senti, coglione. No, ma che coglione? Ma è un mercato legale. Il mercato non è il mercato tipo sospeso, coglione. Ma che c'entra coglione? Coglione, parlo di... Ti dico, un buon coglione, bravo pure, però è coglione. Ma però scusami, mercato non sa. Ha detto che sei bravo, ma coglione. Rimborso è poco male. Mercato, coglione. Vabbè, ma mercato, sempre mercato, mercato. Senti. Non è mercato, rimborso spese. Ma che c'entra, Severi? Ogni volta così, ma ti pare normale a te o no? Ogni volta finisce così, cazzo. No, era più lucido del solito peraltro oggi. Ma non lo so, gli ovuli, 1.000 euro, le buste con 1.000 euro, le accuse, le querele, non si capisce niente. Qualcosa si capiva, Coglione e vaffanculo si è capito quello, tutto. Ecco, esatto, quello si capiva benissimo, quello. Gianni da Treviso, vai. Buonasera, avrei vai, Gianni, un quesito molto importante. Avresti una? Un quesito molto importante. Qual è? Allora... Se io chiudo la tazza del bagno prima di tirare l'acqua, sì. La scia chimica marrone che lascio, come cazzo la pulisco? No, ma spiegami. Tu dici come si fa a pulire io sono abituato, quando tiro l'acqua... Cioè tu dici, siccome quella, la signora nutrizionista, diceva che bisogna assolutamente chiudere la cosa, come si fa a pulire poi materialmente, no? Come si fa? È un quesito importante. Beh, è un quesito fondamentale. Però ripartiamo... prima, sì. Ma se vede che qualcun altro pulisce al posto suo dopo... Allora, ripartiamo però dall'origine, da quello che ha detto quella signora là, credo durante la prestigiosissima trasmissione di martedì, sentiamo, credo che si chiama Rasio. Forse non è molto elegante, però attenzione quando usiamo il gabinetto, chiudiamo sempre il coperchio prima di tirare l'acqua, perché lì quei batteri volano e gli piace molto mettersi nello staccionato da denti. Beh, un quesito fondamentale che ha attirato l'attenzione di moltissimi ascoltatori questa sera. Gianni da Treviso ci dice però come si fa. Sì, perché non è molto neanche elegante lasciare la scia chimica marrone sul bagno dopo. Vabbè, quello uno può rimediare dopo, questo forse voleva dire la signora. Dopo com'è che rimedia? Resta l'attaccato. Da noi si dice che la merda resta attaccata al badile. Ma, cioè, ma chi è questo qua? Di cosa si occupa? Della vita normale? No, cioè, questa è una parte della vita normale, cioè è un piccolo... è una vita normale. Io quando faccio le mie cose se no potrei centrare perfettamente il buco. Ma lo spruzzo mi andrebbe a bagnare il sedere, che sarebbe ancora più antigenico per conto mio. Non so cosa ne pensa Parenzo. Beh, è un problema fondamentale. È un problema che mi sono mai posto, francamente. Beh, adesso mi sto immaginando la scena, no? Mi sto immaginando la scena che sta plof. Con l'acqua anche la mira giusta. Sì, però non si può sempre contare sulla mira giusta in questi casi, esatto, non si può contare. Va bene, Gianni, diciamo, sottoporremo questo quesito, diciamo, ai nostri esperti, Parenzo, no? Diciamo, esatto, ai nostri esperti. Va bene, Marco dalla provincia di Vercelli, dai, Marco. E chi sono gli esperti? Ma non lo so, sottoporremo. Ciao, Marco, ciao, dimmi. Ciao a tutti. Dimmi. Oggi arrivo da Bari. Sì, che succede? Stavo in macchina. Sì. Ascoltavo la radio, posso dire il nome della radio? Sì, tu puoi dire quello che vuoi, chiunque. Radio Selene, che è Radio Selene? Una radio è privata? È una radio che c'ha a Bar, che ne sono una radio privata. Che dice questa Radio Selene? No. C'erano questi due che parlavano, mi hanno fatto incazzare come una bestia. Perché? La cripta di Padre Pio. Sì. Parla più forte, tutta, però, se no non ti sentiamo. Tutta la... di, è tutta d'oro. Sì. Tutta d'oro, tutta di massiccia d'oro. No? Lo sapevo, fatto, però non l'hanno ricordato, no? Sì. Allora io voglio dire, no? La cripta è tutta d'oro. Lui sta messo sull'oro. Questo qua si è dato alla povertà per fare del bene, per tutto quello che ha fatto. Al di là del fatto che a me della religione non me ne frega un cazzo e sarei felice su questa terra se non se ne parlasse più, non ce ne fosse però, più però una. Però è difficile che succeda. Comunque, allora? Neanche una, perché tutto quello che c'è il bordello è perché c'è anche la religione. Vabbè, allora? No. Oh, dai, Marco, che succede? Tutto sto oro, raspassero via tutto quell'oro, lo prendessero tutto. E se servono dei soldi per questi disgraziati che arrivano, che non è più emergenza immigrati, non è più emergenza immigrati, no. È un fatto reale di vita, la gente scappa da quei posti e se ne deve andare dove si sta bene, perché vuole scopare, perché vuole andare dove ci si diverte, non vuole più stare nella pelagra, capisci? Sì, allora, sì, ma c'è anche questo. Prendessero i soldi da dove ci sono. Sì. E non 12 persone a portarle al Vaticano là a grattarsi i coglioni, 12. Beh, adesso apostoli, grattarsi i coglioni non lo sappiamo, grattarsi i coglioni. Però il cosa fanno? Lavano i vetri al Papa sull'R4 mentre si muove. Però R4 cosa non fanno? Ce l'ha il Papa, credo. Ma cosa dice? Però Marco, nella sua come dire, nel suo attacco così violento, anche così scomposto in alcuni momenti, non dice una follia. Ma, cioè dice la cripta di Padre Pio, alla fine è tutta d'oro, no? Questi soldi che sono, non so, magari saranno di... No, dei devoti, mi sono andato a leggere tutto l'articolo. Appunto, dei devoti, preciso, cioè, non è che sono del Vaticano. Esatto. È stato sono frutto di donazioni, forse. Questi devoti qua li mettono i soldi agli immigrati? Aprono la porta agli immigrati o mettono i soldi dove c'è la bella faccia? Dove dice io ho messo i soldi, magari ci mettono sotto la targhetta. Marco ha messo 10 euro e sono un figo. No, Marco ha messo 10 euro perché c'è il pakistano che è venuto qua e non ha un cazzo da mangiare. E non ha bisogno di mettere la targhetta sotto. Beh, non ha come torto però, Marco. Come tutti quelli della domenica che vanno a farsi la sfilata in chiesa per far vedere che le ha pelliccia, no? No, ma adesso lasciamo perdere la pelliccia, eccetera. Però sto lui dice... saltando di palo in frasca. Sì, questo, sono questo si capisce. Questo si è capito. Ti sei incazzato per una cosa. Tu fai l'autotrasportatore, eh? Faccio? No, che fai? Io ti chiamo sempre, io mi occupo di sicurezza. Ti occupi di sicurezza? No, veramente non me lo ricordavo. Marco, comunque la cosa fondamentale è questa, tu dici la Chiesa ha un sacco di ricchezze, no? Ha un sacco di ricchezze. Andiamo a grattare queste ricchezze, no? O sbaglio? Quella è evidente, no? Quella lì è proprio evidente, no? Io, sai perché ti dico così? La Puglia, perché ero lì, e quella cosa mi ha fatto ancora incazzare. Devi provare a passare, io stavo... Allora, sono arrivato da Milano, ho fatto Bari, ho preso la macchina e me ne sono andato verso la Basilicata, verso Melfi. Sì. Devi attraversare un sacco di campagne dalle parti di Foggia e Cirinola, allora? Devi fare tutto un giro lì così. Vedi chi c'è in mezzo ai campi, va. Chi c'è in mezzo ai campi? Gli extracomunitari, chi c'è? Sono gli extracomunitari. Ma questo si sa, non è che ce lo devi dire tu. Si sa, è arrivato certo. Lui a scoprire. E allora? Non c'è niente da scoprire, però è gente che comunque è venuta via da un posto dove ti assicuro hai visto tutti quei posti. Giuseppe, tutti l'hai visto. Se ti ricordi quelli, ne ho visti parecchi. Ne ho visti molti e, allora? E parecchi di posti di sfigati della molte terra. E dove dunque? Andiamo a esportare la democrazia? Benissimo. Vengono qui. Per pochi soldi stanno lì a raccogliere i pomodori. Allora? Casa, no? Ed è una cosa buona. E ringraziali che vengono qua. Io li ringrazio, ma c'è chi ha detto niente? Chi è che ha parlato? Davide, sei tu? Sì, era Davide. Io sì, li ringrazio, certo. Ma c'è chi ti ha detto? Ma chi ha detto che non li vuole? Io mica ho detto che non li voglio, attenzione. Io ti sto dicendo che non deve essere più un'emergenza, deve essere un fatto reale, che questa gente deve muoversi sul pianeta come si sono mossi tutti. Vabbè, non ho capito senza niente. Problemi. Ciao Marco, ciao. C'ho le palle piene! Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La pubblicità. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Avanti Parenzo, chi ti è passato a trovare lì a Roma? Allora, chi c'è? Allora, no, chi no, c'è calma, a Roma? Calma. Chi c'è è a il Roma? Presidente di un importante gruppo industriale che afferisce a questa associazione che ci dà la parola, che si chiama Confindustria. È un imprenditore al quale io negli anni 60, Mario Capanna, occupai la fabbrica. Ma non mi risulta, ma che fabbrica hai occupato? Scusami. È il presidente del gruppo Illy, il signor Riccardo Illy, già sindaco di Trieste. sì, ex sì. Presidente della Regione Friuli-Venezia. Ma si sente lei? Sì, sì. Sì, sento. Perché sento. C'è quel matto di buonasera. Cruciale. Buonasera, buonasera, come andiamo? Come andiamo? Grazie, qui andiamo bene a Roma. No, a Milano invece? Rideva come un pazzo. A Milano non c'è male, c'è un caldo pazzesco. Comunque, beh, non parliamo del tempo adesso, caro Illy. Parenzo come sta? A proposito, non l'ho visto oggi. In che è in forma? Come sta Parenzo? Si annoia? Ma è un medico, scusa. No, ma, è informissimo. Adesso gli tasto il polso, sentiamo un po'. Ecco, vediamo un po'. Battito perfetto. Ma scusa, il presidente di un gruppo industriale. Io perché lei non fa più politica? È sparito dalla politica? Come mai? Abbiamo già dato. Ah, ma considera un po' questa classe dirigente, gente abbastanza. Sì, gente. No, ce n'è di qualcuno buone, bravo, c'è, ma qualche miserabile c'è, però. Sì, ma c'era anche quando. La Lega, ad esempio, le piace la Lega. Salvini, le piace. La Lega. Salvini, chi? Salvini. Salvini, quello della Lega, il leader della Lega. Ah, ho capito, no, seguo poco la politica. Dopo, no, Salvini. Come Salvini? Se ci fosse al governo del paese, Salvini. Ecco, questo è interessante. Beh, io per fortuna abito a Trieste, vicino c'è la Slovenia, un paio di chilometri potrei... Ah, scappa in Slovenia? Scappare, sì. Ma addirittura portandosi dietro le aziende, signor Illy. Quella è un po' più difficile perché non le abbiamo montate sulle ruote, avremmo dovuto essere più previdenti, purtroppo non le abbiamo fatte. Però scusi, signor Illy, davvero lei pensa che Salvini al governo sarebbe, non so se potrà accadere, un disastro assoluto per l'Italia, sarebbe una catastrofe totale o no? Adesso, parlando più seriamente, intercetta delle esigenze dell'elettorato che altri non soddisfano. Le proposte che fa sono irrealizzabili o sono addirittura negative. Quindi comporterebbero un danno invece che un beneficio. Ah, dunque l'Italia, diciamo, potrebbe andare in fallimento addirittura. Lei, già siamo messi male. Cioè, se governasse Salvini con le sue idee, noi potremmo fallire del tutto. È un fallimento, una parola grossa, però potremmo peggiorare invece che migliorare. Ecco, il fatto per esempio di uscire dall'euro, io non ho nessuna nostalgia della liretta che si svalutava più o meno del 20% all'anno, quindi con l'euro mi trovo molto meglio sia come persona che come azienda. Ma secondo lei ci è o ci fa, signor Salvini? Secondo me ci fa, quindi ha capito benissimo quali sono quelle esigenze di una parte dell'elettorato che altri non soddisfano e usa gli argomenti che corrispondono a quelle necessità. Ma lei quando lo vede le fa un po' impressione o no? Oppure dice con questo qua non è da calcolare, non lo calcola nemmeno. Cioè non lo calcola. No. Non lo vedo proprio perché ma il terzo partito la politica la seguo veramente. E Grillo? Poco. Grillo le piace Grillo? Grillo come comico, sì, era un buon comico. No, ma il Movimento 5 Stelle dico. È uguale, come la Lega, cioè, come di la nuovo Lega. Intercetta altre esigenze non soddisfatte e propone cose improponibili. Ma per esempio le 30 ore di lavoro settimanali che tutti hanno dimenticato, ma nella campagna elettorale le aveva proposte. Che è una stupidaggine. È semplicemente irrealizzabile, vorrebbe dire mettere fuori mercato tutta la produzione. Una puttanata, italiana. Possiamo dire noi qui diremo una puttanata. Però, è un termine tecnico che ci può stare. Allora, però adesso andiamo al signor Renzi. No? Lei che è un grande imprenditore italiano, un gruppo importante, il caffè in tutto il mondo, eccetera, lo sappiamo. Non solo il caffè, vabbè, adesso lo dobbiamo fare. Cioccolato. Però Renzi, che voto dà a Renzi? Perché alcuni. Una parte della stampa, quella più accanita contro Renzi, parla addirittura di atteggiamenti un po' duceschi, di dittatura. Sì. Lei pensa che siano tutte stronzate queste qua o no? Ma mi pare di sì, perché abbiamo un Putin da una parte, abbiamo una Cina che ha un sistema che certamente non è democratico dall'altra. Abbiamo quindi in Ungheria, ahimè, sono di origine ungherese, un Orban che ha praticamente zittito la stampa, ha modificato la Costituzione in modo da dare tutti i poteri soltanto al governo. Dire che Renzi è un dittatore, mi sembra una sparata un po' grossa. Che voto dà Renzi lei per adesso? Sicuramente di sufficienza, perché ha promesso delle cose e buona parte le ha attuate e altre le sta attuando. Ecco, poi è chiaro che non posso dire che sia tutto perfetto, che avrei fatto tutto esattamente allo stesso modo, quindi qualcosa l'avrei fatto in maniera diversa, però diciamo, il voto è ampiamente sufficiente. È il suo voto, il mio io non conta, io non sono un grande simpatizzante, mi piaceva di più quando voleva fare il rottamatore, da governante mi piace un po' meno, però ma sta anche rottamando Sì, aspettiamo. Cioè, ha fatto bene a mandare via i suoi ex compagni di partito, i D'Alema. A parte che non è mai stato iscritto, ma insomma, i D'Alema, i Bassolino. Lo dico bene con dispiacere, via. Ma temo fosse una necessità. Perché se andavamo avanti a discutere fra partiti all'interno di partiti, invece che fare le cose, saremmo ancora qui soltanto a discutere. È vero che fa qualche quello... riforma è stata fatta invece. È vero che fa quello che avrebbe voluto fare Berlusconi, secondo lei? Ma anche questa mi pare una semplificazione eccessiva. Alcune cose che Berlusconi aveva proposto le ha fatte, ma mi pare in maniera un po' diversa da come proponeva. No, dico, qualcuno dice che i sindacati, il lavoro, eccetera, fa delle cose, ha fatto o vuole fare che delle cose. Berlusconi la critica alla magistratura, per esempio, no? Le intercettazioni, eccetera, vuole fare delle cose, ha degli atteggiamenti che sono simili a quelli del Berlusca, o no? Molto diversi, ecco. Non parlerei di attacchi alla magistratura, certamente criticato alcuni atteggiamenti, anche qualche comportamento, però con un rispetto che è quello che deve uno dei poteri dello Stato a uno degli altri due poteri dello Stato, cioè quello giudiziario. Comunque è l'unico in campo, cioè, senza Renzi secondo lei siamo nella merda. Non c'è alternativa. In questo momento sì, poi con il tempo può anche nascere qualche nuovo leader. Ma prima di Grillo. Mi pare che loro abbiano un leader Di Maio, sì. Che si presenta benino, poi vedremo, deve crescere, può anche qualcosa. Non le pare un po' strano che in questo paese, per carità, si vota, si è sempre votato, però Renzi in fin dei conti occupa un sacco di, no, atto allo spoil system, nomina suoi dappertutto, io non ci trovo niente di strano, però non è stato eletto da nessuno, cioè questa roba qui è un po' bizzarra o no? È vero, la Repubblica parlamentare è un'anomalia? È un po' un'anomalia, dai, o no? Allora, due cose. Prima, oggi essere eletto vuol dire essere inserito in una lista dove, a seconda della posizione dove si è inseriti, si viene eletti oppure no. Quindi non capisco che cosa significhi essere eletto. No, Presidente Secondo, del Consiglio, però. Non esiste l'elezione del Presidente del Consiglio. Però quindi, almeno si passa per le urne, quello è passato. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Parlamento. Vabbè, quindi, quando parliamo di essere eletto, vuol dire eletto al Parlamento. Elezioni in cui uno si candida alla Premier. Vuol dire essere inserito nella casella giusta, nella lista dei candidati, nulla di più. Sì. Secondo, la Costituzione italiana non dice che il Premier debba essere un parlamentare. Ho capito. Quindi siamo nel pieno rispetto. Quindi è tutto della legittimo. Ma noi, nessuno dice che siamo contro la Costituzione. È un po' anomalo che uno che ha tutti questi poteri concentrati in sé, non ci trovo niente di strano, però non sia passato dal Parlamento. Cioè non sia, dal Parlamento è passato, non sia parlato attraverso un'elezione. Molto popolare. Non si è mai candidato a Premier Renzi, è subentrato con una manovra di palazzo contro Letta. Questa è la realtà. E allora? No, ma allora va bene, per carità, non dico che è contro la Costituzione, va bene. Cioè, non è contro nulla, anche, ma no, anche in passato abbiamo fatto così, in altri paesi si fa così. Appunto. L'importante è dare governabilità al paese e Renzi è riuscito a darla. Senta, ma io e quindi il fine giustifica i mezzi. Io le voglio fare una domanda molto, molto chiara. Al di là del, lei abita da tanti anni in Friuli. Venezia Giulia, che se non è Giulia, lo dico per semplificare. A pochi chilometri di distanza c'è l'Austria, un posto dove ci sono un sacco, quelli che io chiamo e che si chiamano così, bordelli. Beh, non c'è solo questo. C'è un grande traffico di italiani che portano denaro a imprenditori. Lei non vorrebbe una situazione simile anche, non dico nel suo Friuli, ma insomma in Italia, cioè la legalizzazione della prostituzione, tanti bordelli anche in Friuli. Insomma, imprenditori magari disposti a investire ci sarebbero, no? Allora, due cose. Uno, non occorre andare fino in Austria, che dista circa 100 chilometri, anzi 150, basta andare in Slovenia, che dista 3-4 chilometri. Io ci posso andare a piedi, e di bordelli ce n'è altrettanto. Però lei non ci però va. Mi passi la battuta. Ma ti pare che chiedi al presidente Illy se poi è stato... lei non ci va. Ma lui ride giustamente. Ma se tu hai qui Agnelli, ma ad Agnelli... Agnelli ha fatto l'esempio sbagliato su Agnelli, scusami. Anche per altre cose. Ma se tu avessi qui Boccia, faccio un nome a caso che non è Boccia quello ma della scusa commissione. Amico mio, ma io che cosa vuoi? Questo è un argomento importante, non è che gli ho chiesto se è andato mai a prostituta o no, per carità. Voglio rispondere alla sua domanda allora avevo una vecchia zia, non era una vera zia ma che lavorava in questi bordelli, no, che a un certo punto disse a suon di tollerare siamo diventati una casa di tolleranza. Ecco, in Italia abbiamo tollerato un bel po', quindi forse non occorre andare neanche in Slovenia, in Austria, anche in Italia siamo in un bel bordello. Insomma, però qualcuno sta cercando di mettere ordine. Risposta alla domanda, li farebbe i bordelli in Friuli, Venezia Giulia o in Italia o no? Li farebbe le case chiuse? Le riaprirebbe o no? No, non gliene frega niente. No, francamente non è un problema che ho sentito finora. Non è un ramo quale... d'azienda, purtroppo, diciamo. Mi dispiace, io sono un problema che sento molto, ma non per me, dico in generale, ma no, non mi è piace. Un settore nel quale investirei, però indubbiamente... Questo potrebbe essere interessante, aprirei una casa Illy, bellissimo, no, stupendo. Ha detto il contrario. Illy, no, una casa con, sai, col simbolo dell'amore, con, sì, scritto Illy davanti, vabbè, e tutti dentro, col caffè servito per quando uno va a prostituire. Una grande idea, ho avuto una grandissima idea. Basta, se guarda, ci fossi in Italia, mi farei sponsorizzare da Illy per aprire un bordello. Chissà come mai non fai l'imprenditore tu, chissà come mai. No, guarda, che sarebbe una grandissima idea. Scusi, ecco, ripeto, invece è un settore nel quale non penserei proprio di investire. Però non le va nemmeno che in Italia ci sia la legalizzazione. In Austria c'è più ordine, sì. Appunto, era un paese ordinato, si diceva, dalle parti nostre, e lo è anche da quel punto di vista. E allora perché non farlo in Italia? Probabilmente regolare la materia in maniera più chiara, come avviene lì, sarebbe... No, perché lei dice fare i bordelli in Italia, in un paese che è un bordello, però scusi, allora, diciamola chiara, esportiamo il modello Austria in Italia, tanti bordelli, vorrei tanti bordelli anche in Friuli. No, non si può dire. No, non si può dire. Di no. Direi di no. Io penso, ecco, l'Unione Europea potrebbe cercare di regolamentare la materia in modo da avere una omogeneità di trattamento. No, la Serracchiani no, non voglio sapere. No, solo se le piace la Serracchiani, la sua ex, la sua governatrice. È un'altra persona che sta facendo. Ecco, bravo, no? Sì, è bravo. È brava. Allora, un'altra cosa che voglio chiedere, poi, assumerebbe dei rom nelle sue aziende? Siccome oggi un imprenditore ha detto che vuole assumere dei rom perché sono discriminati, lei assumerebbe dei rom, oppure è uno sbaglio pensare ai rom, uno deve essere assunto solo perché è bravo? Deve essere assunto perché ha delle capacità, poi secondo me qual è la sua origine come paese o come popolazione, credo sia irrilevante. Comunque è una stupidaggine assumere dei rom così, tanto per assumere un rom. Ma non perché sono rom, cioè, l'importante è non fare il contrario, cioè non assumerli perché sono rom. Beh, diciamo, se sono bravi, se sono capaci, sì, vanno assunti a prescindere. C'è molto nella nostra azienda abbiamo persone di diverse però se le arriva davanti uno di questi qua, un po' di diffidenza c'è, ovviamente, no? Se le porto, lei ha del rame nella sua azienda? C'è il rame? Ne avrà tanto, usiamoci il rame per saldare appunto, i fondi dei barattoli grandi che costruiamo all'interno. Non le conviene assumere qualche rom con pericolo costante là. È meglio un ram, dice. Un'ultima cosa, ma fate qualche pubblicità ogni tanto col caffè di qualche famiglia omosessuale, sarebbe meraviglioso. Stupendo. Questo è un tema che avete già toccato qualche mese fa e che mi pare anni vi abbia portato a non avere anni più fa. Ho scherzato per dire me, sì, anni due anni fate fa. Fate una bella pubblicità, una bella pubblicità. Un caffè, una coppia omosessuale che beve un caffè Illy, meraviglioso, stupendo. No. Tutti lo... No. Muto. Lo dirò a mio fratello Andrea, che è a capo dell'azienda del caffè, ma credo che ci abbia già pensato per conto suo. Cioè, lo volete fare? Beh, stupendo sarebbe, lo volete fare. Forse ci è già pensato. Vabbè, sì. Grazie, Ivi, a presto. Può darsi. Grazie, a presto. Grazie. E adesso la borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta... Alla Welcome Italia facciamo cose normali, per questo siamo diversi. Ai nostri clienti rispondiamo in tre squilli. Controlliamo una volta al minuto la qualità dei servizi offerti. Aggiorniamo ogni anno la nostra offerta via Nova con nuovi servizi di telecomunicazione e di collaborazione inclusi nel prezzo. E lo facciamo per tutti i clienti, vecchi e nuovi. E senza chiedere nulla in cambio. Siamo perfetti? No, siamo diversi. Welcome Italia. I migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145. Ti rispondiamo in tre squilli. Eccolo lì, il passeggero che ti controlla mentre guidi. Quello che ti dice cosa fare e dove dovevi andare. Quello che frena prima di te. Ora puoi dirgli addio con la nuova Polo. Ancora più tecnologica, con rilevatore di stanchezza e sistema di frenata anticollisione multipla di serie. Solo ad aprile Polo è tua da 10.900 euro, con finanziamento anticipo zero, TAN zero, TAEG 220. Info su Volkswagen.it. Nerone, Giulio Cesare, Adriano. Le monete dei grandi imperatori romani hanno attraversato la storia per giungere fino a noi, destinate a durare per sempre. Autentiche, preziose, beni rifugio importanti e di valore, non soggetti a tassazione. Per i tuoi investimenti scegli le monete dell'antica Roma, una sicurezza per i tuoi risparmi, con la garanzia che solo Bolaffi può offrire. Scopri di più su monete.it. Garantisce Bolaffi. Monete.it. Questa non ci voleva. Ti hanno tamponato. E senza auto la tua giornata è rovinata. Stai tranquillo, nessuno ti protegge come AXA. Scegli la protezione auto di AXA e pensiamo noi a carro attrezzi, vettura di cortesia e riconsegna dell'auto a casa tua. Chiedi a un agente AXA o nelle filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena. Nessuno ti protegge come AXA. Prima della sottoscrizione leggi il fascicolo informativo su auto.axa.it. AXA, ridefiniamo la protezione. Nessuno merita lodi per le sue buone azioni se non ha il coraggio di essere cattivo. Dopo Viva la Libertà, il nuovo film di Roberto Andò. Le confessioni dal 21 aprile al cinema. State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different. Scopri il nuovo modo di guidare su drivedifferent.it. La Zanzara. Cruciani, a Berna non puoi perderti il Gentleman's Club nei pressi di Schweizerhof Hotel, vicino alla stazione. Qui a Berna siamo al top. Bene, indicazione su un bordello a Berna, caro Parenzo, a Berna, per chi vuole andare in quella città. Prosegue il nostro grande viaggio in mezzo potresti ai bordelli fare una svizzeri. Mappa, una guida, sì, come la guida Michelin. Ma esiste la guida... anche, ma no, non ma c'è bisogno. Da te. Ma sei rimasto indietro. Esistono delle cose te, ormai sul ma web. No, quello no? Immagino, ma tu sei considerato uno dei massimi esperti di prostituzione, quindi no, potresti fare una mappa di come dei bordelli che hai frequentato, come le forchette. Pochi, molto no? Pochi, molto come pochi. Fai una mappa e poi gli ascoltatori giudicheranno. Ma è bellissimo. Questo non credo. Filippo Vicenza, vai Filippo. Giuseppe, sono Filippo del Fan Club di Riccardo da Roma. Vai, dimmi Filippo. Ciao, vai. Ciao, grande soddisfazione comunque, dove è tornato il maestro e siamo più di 4.000 iscritti. È tornato il maestro Riccardo, caro Parenzo, è tornato no, Riccardo. Non so di cosa parli questo. E siamo maestro. In 4.000, sottolineo, quindi vabbè, allora una mano dai Cruciani, ormai adesso. Dacci una mano a fare che... Dobbiamo fare un appello per Riccardo, sindaco di Roma. Ma mi pare un po' complicata la situazione a Roma, devo dire la verità. Ma sai, ora scusa, che si è ritirato Bertolaso, Riccardo, forse. Secondo te Riccardo non prende più voti di Bertolaso? Beh, quello potrebbe essere, sì. Quello potrebbe o essere. Di Storace. Guarda, tu ci dai una mano, ci fai... Fai uno spazio per Riccardo come quello di Salvini, vedrai che in giro di un mese e mezzo ce li mangiamo tutti. Riccardo si disbrana. Ho capito, ma bisogna vedere se vuole candidarsi lui, perché non si capisce. Allora facciamogli un appello, perché guarda, ci sono tutti i nostri riccardiani romani che lo vogliono. Non lo la politica vogliono lui, è una roba. È lui l'uomo del centrodestra, hai capito? Riccardo da Roma, candidato del centro. Non so se Berlusconi. Quel Panda Renzo, fai qualcosa per quegli occhiaie, Parenzo, perché veramente sei inguardabile. Una cosa. Ma cosa c'è? Ma le occhiaie comunque... sono una. Ma lei non è un tratto distintivo? È come dire a Chagall o no? A Michelangelo. Chagall. O come dire, diceva Michelangelo, diceva, sa quel dito suo così bello, affusolato. Cioè, è vero, il suo dito affusolato. Ma scusa, ma stai scherzando, spero. Fai no, qualcosa, sta dicendo. Per favore. Io, e guardi, cosa, non so poi... che faccia abbia lei, ma la possiamo immaginare tutti, guarda, visto il club molto meglio della tua. Anzi, al quale aderisce. Dimmi una cosa, Natania, come sta? Natalia, bene, come sta? Tutto bene, bene, caro, ma non è merce, non è roba per lei quella lì, sai. Tutto bene, no, guarda, era col telefono con me prima. Guarda, mi diceva di quelle cose che. Questa, però, è una battuta. Te, mi preoccuperei. Però, siccome non ha il gusto dell'orrido, la cosa non credo. Qualora avesse il gusto dell'orrido, allora la potrei capire. Ma non ce l'ha fino a prova contraria. Allora, questo era per dire che tu che fai tanto, parli sempre di cornu. Tanto diamoci del lei, perché non abbiamo nulla in comune. Quindi. Perché anche con Riccardo, prima fai il fariseo, ho bestemmiato, che poi non il fariseo, ma lei sa cosa vuol dire? No, sei un fariseo, il prete Caifa, che diceva Gesù. Ma lei è veramente un cretino. La bestemmia, quel bellissimo film di Mel Gibson, no? La passione. Ecco, mamma, tu sei tale quale a Caifa. Che identico. Eccesso, ma che eccesso di persona è questo? Beh, oh, dici, addirittura oh, eccesso guarda, di persona. Dai, comincia a insultare. Che adesso l'ultima cosa che ti dico. Dimmi l'ultima, tu che dai. Hai detto che hai tirato fuori i familiari, la moglie, gli amici di Riccardo, no? Io lo so per certo, me l'hanno detto, sì. Che sono incazzati neri e sono di Roma. e quindi sanno dove stai. Attento, che hanno detto che adesso questo sia... vai a finire in un bel cassonetto. Ma no, ma questa quindi qua è la mia... Vabbè, ho capito, ma questo mi sembra veramente ma una follia. Ma questo qua, se lo trovo... Ma così un povero pezzo di merda va a avere la paura di questo qui. No, lui tanto semplicemente tira in ballo la moglie, gli amici, i familiari. Io gli dico solo che questi adesso si sono incazzati. Bene, guardi, di chi è figlio lei lo possiamo immaginare tutti, anzi, lo sappiamo tutti, quindi... Certo. Lei, ora io parlo di Riccardo, non di me. No, io parlo di lei invece, perché davanti c'ho lei al microfono, quindi... Sì, vabbè, sì. Ragazzi, ciao. Allora, abbiamo con noi Raffaele Morelli. Professore, buonasera, lei è diventato mio nuovo mito dopo quello che ho sentito nei giorni scorsi. Come andiamo? Bene, lei tutto bene? Grande non Morelli. C'è male, non Morelli, c'è male. Diciamo, non quello della Lega, perché a volte uno lo confonde col professor Morelli, psichiatra, che nulla ha a che vedere con quel bifolco direttore di Radio Panaria. Ma no, ma come bifolco? Prima lo saluti sempre, ogni volta, e poi adesso dici che è un bifolco. Guarda che sei incredibile. Lo inviti in trasmissione alla 7 e poi gli dici che è un bifolco. Lo invito perché ogni tanto anch'io in televisione ogni tanto uso il bifolco. Perché serve sempre il bifolco ogni tanto. Pazzesco. Però volevo sottolineare che il professor Raffaele Morelli è uno psichiatra e non ha nulla a che vedere col bifolco di Radio Badaria. Era solo un'informazione agli ascoltatori, non si sa. Professor Morelli, ma perché secondo lei, questo è una cosa che voglio approfondire, il tradimento è un potente dimagrante? Oltre al sesso, il sesso si può capire, no? Cioè, perché il sesso, naturalmente, l'attività fisica, eccetera, eccetera, potrebbe essere un dimagrante. Ma perché il tradimento? Ecco, questo sono curioso di sapere. Ma vede, l'Eros forse di tutta la chimica del cervello è quello che più di tutto ci prepara a rigenerare le cellule nervose, sì, alla felicità. Le sostanze della felicità vengono immesse nel cervello quando noi siamo nel piacere. E il nemico dell'Eros, il grande nemico, è la routine, sì, quindi sì, certo, lo standard, no? Sì. Quindi quando quell'intervista che mi fecero fu sulle coppie bianche, no? Quando le coppie per tanto tempo non fanno l'amore. Allora, È pieno di coppie così, eh? Sì, ma bisogna sapere che il matrimonio non è il luogo della passione, è all'inizio c'è la passione e poi è il luogo della crescita dei figli, della costruzione della casa. È la morte della passione, diciamola tutta. Diciamo che l'Eros vede Cruciani, l'Eros non vive nel tempo. L'innamoramento non vive nel tempo, il desiderio non vive nel tempo, e ogni volta che noi lo restiamo nel tempo in qualche modo decade. Allora quando decade noi rischiamo di ammalarci, rischiamo di diventare aridi. Che allora ha molto senso sapere che l'Eros è più importante del cibo che mangiamo e che il centro della fame è molto legato al centro del piacere. Vi sono persone, i grandi nutrizionisti sanno che il più grande dimagrante che esiste è l'innamoramento, perché riparte la fantasia, che è molto importante per rigenerare il cervello, la fantasia, il desiderio, addirittura la fantasia di ciò che potrà accadere anche se non è accaduto. L'Eros vive molto di fantasia. Allora io dico una cosa però. No, ma quindi in sostanza è drammatico, cioè non c'è alternativa. Cioè quando uno per, diciamo, per non diventare, diciamo, brutto, diciamola tutta, brutto, grasso e anche un po' fastidioso, deve se non trova soddisfazione a casa dal punto di vista sessuale, è meglio che tradisca. Ma guardi, a parte che è inevitabile il tradimento. Lei è mai stato monogamo, professor Morelli? Guardi, uno psichiatra che fa il mio lavoro deve fare tre cose: non parlare delle sue opinioni politiche, non parlare di sé e non raccontare la sua visione religiosa se ce l'ha, quindi non parlo di me. Detto questo, è evidente che vedi, gli uomini tornano a casa, vedono la loro compagna, la loro moglie elegante con la minigonna un po' scollata, dice: ma cosa fai? E guarda, esco. Da quel momento ricominciano a corteggiarla. E questo fa capire molto bene come, quando vedi in lei la trasgressione, quando vedi che in lei non è soltanto tua, ricomincia a desiderare. E quindi la certezza della relazione, il fare l'amore a letto, per esempio. Tremendo fare l'amore a letto, tremendo. È una routine, e quindi impedisce di varcare le soglie dell'abitudine. I greci, che erano grandi conoscitori dell'anima, non avrebbero mai detto: io mi sono innamorata di Giovanni o di Giuseppe. Avrebbero detto: è stata Afrodite che ci ha uniti, per dire che dentro di noi c'è un'energia, un'energia sessuale, che ci porta a incontrare qualcuno che è un po' l'interruttore per accendere questo fuoco che è il desiderio. Però io dico, Io dico una cosa, insomma, io sono convinto che addirittura, lo dissi tempo fa in un'intervista, che guardare la propria compagna, fidanzata eccetera, mentre fa sesso con qualcun altro è il più grande godimento che ci possa essere. E mi hanno criticato in molti per questa cosa qua. Parenzo mi ha preso in giro e mi continua a prendere in giro perché per questa cosa. Perché lui piace essere cornuto e saperlo. Ma no, la parola però, cornuto non esiste. Ma sentiamo la scienza, sentiamo la scienza. È nella tua testa. Condivido con Cruciani l'idea che in qualche modo noi dobbiamo uscire dall'idea della relazione come fosse esso. La parola cornuto è una parola dell'ultimo secolo molto infelice. Scusi, professore, la tradizione erotica di tutti i tempi, sì, no, anche lo stesso cattolicesimo per molto tempo concepiva l'eros in un modo differente. E tornate a casa e trovate vostra moglie. Sentite, va bene tutto, 20:48. Mi ha convinto. Tornate a casa, non telefonate, trovate la vostra moglie che si diverte con il vostro migliore amico e poi dite stupendo. È una cosa dell'Ottocento, è una cosa. Io condivido per questo, dico che lei è sposato, professore? Ma non parla di se stesso. Io dico questo, che l'eros appartiene a territori inesplorati. No, questo ne conosciamo pochissimo. Cioè lei per esempio, se una persona, se una coppia viene da lei, e dice noi vorremmo praticare dello scambismo. Sì. Che lei lo consiglia fortemente o no? No, guardi, io non penso che se una coppia viene da me, guardi, una coppia quando sta bene fa l'amore, quando sta bene fa le cose che gli piacciono, crea una propria intimità e se gli piace lo scambismo lo fa. Sì. Senza, il mio lavoro non è un lavoro di moralisti. Cioè non c'è un consiglio, certo. Il mio lavoro certo. non è un lavoro né di moralisti, né di bigotti, né di preti. Bravo, quello, certo, è un altro, quello è un altro lavoro. Bravo, il mio lavoro in cosa consiste? Non neanche nell'esaminare la tua storia. Il mio lavoro consiste nel vedere che albero sei, che pianta sei, cos'è che ti rende unico, no? E una coppia la cui intimità vive, no, di trasgressione, purché ovviamente non ci sia il farsi del male, tutto ciò che accende la coppia fa parte e fa bene alla coppia. Allora, però diciamo una sentenza finale, quella che è il mio mantra praticamente. La monogamia non è un po' contro natura. Professore, mi dia ragione su questo, la prego. Cioè, perché la monogamia è una cosa contro natura, totalmente contro natura, o no? Guardi, la monogamia, questo lo insegna la coppia. Tenga presente che secondo le statistiche più comuni non esiste una coppia in cui non ci sia stato almeno una volta un tradimento. Per cui ho ragione o no? In psicoterapia ho visto tante persone e diciamo che non avessero mai tradito il proprio partner e viceversa. È raro, è molto raro. Io posso dire mi è capitato con 2 o 3 persone, quindi al di là di quello che per cui è contro natura, di quello che non si dice. L'eros ovviamente, ma bisogna anche vedere il tradimento. Ma io andrei a casa allora, scusate se stai così no, le cose. Bisogna vedere anche il tradimento come l'accensione del desiderio, il richiamo dell'accensione del desiderio. Se tua donna suscita un interesse in un altro e tu la trascuri e non ti interessa più, lei ti sta ricordando che ti può interessare ancora. Se non ti sei accorto che lei ti tradiva, se non te ne sei accorto, cosa vuol dire? Vuol dire che tu la vedevi come lei non è, la vedevi come la mamma dei tuoi figli, come quella che fa andare avanti la casa, non la vedo. Parenzo, stai attento. La passione, quell'eros. Parenzo, stai attento. Professore, grazie, arrivederci. Saluti, grazie, prof. Federico, provincia di Ravenna. Federico, provincia di Ravenna, un secondo. Dimmi. Ciao, buonasera. Io volevo intervenire per il problema che aveva lanciato un ragazzo prima. Fatto che quando caghi, ti può salire il riflusso dell'acquetta. Se lo centri. E dunque allora? Praticamente un pezzetto di carta igienica prima di defecare risolve il problema alla fonte, alla radice. Cioè devi occupare il terreno con un po' di carta igienica, dici, per impedire il plof e l'acqua che va sopra. Vabbè, ma che male fa poi alla fine, no? Parenzo, alla fine che male fa? Non mi è mai capitato, posso dirti che non mi è mai capitato. Cioè non ti è mai capitato di centrare? Ma chiedo scusa, per carità, sono un caso raro io, non ti preoccupare. Senti, dai, fai una cosa, io. Vai a casa. Fai così incontri tua moglie che sta scopando con qualcuno. Un altro appuntamento fuori. E fai un plof e stasera prova a centrare il cesso. Sì, ti prego, prova a centrare il cesso. Domani, ciao. Parla di figa, per favore. A noi non frega in casa di niente. C'ho le palle piene. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E certo. Radio 24. La passione si sente.